Premessa. Poiché tutti gli dèi delle nazioni sono idoli vani, Yahweh invece ha fatto i cieli. Affrontare obiettivamente Nuovo Testamento e l'argomento religioso non è facile perché ognuno crede di avere la giusta religione. Perciò cercheremo nelle nostre riflessioni di non avere presupposti. Tutti gli uomini esprimono una fede che, salvo eccezioni, è nata migliaia di anni fa, come per esempio il buddismo, sorto 6 secoli prima di Cristo, o l'islamismo, nato 7 secoli dopo Cristo. Quindi, se vogliamo affrontare uno studio sulle religioni con un minimo errore di preconcetti, dobbiamo essere informati anche sulle origini di ogni credenza. Le grandi religioni che noi conosciamo possono essere divise in 2 categorie, quelle risalenti a prima o a dopo Cristo. Le religioni antecedenti a Cristo che prenderemo in esame sono l'induismo, ebraismo, buddismo, taoismo e confucianesimo. Quelle posteriori a Cristo sono l'islamismo, lo shintoismo, i testimoni di Geova, i mormoni, la New Age, Scientology, gli ortodossi, il cattolicesimo e il... Poiché le religioni dopo Cristo meritano un altro approccio, facciamo un veloce esame e confronto tra quelle che sono sorte prima della sua nascita. Eccetto l'ebraismo, le religioni che citiamo prima di Cristo non sono da considerare religioni nel senso tecnico della parola, ma sono un insieme di regole morali, filosofiche e mistiche. Di conseguenza, non si possono mettere a confronto con l'ebraismo per vedere quale religione sia giusta. Allora, qualcuno chiederà, perché l'ebreo affermava che gli dèi delle nazioni fossero idoli? Quali erano queste divinità delle nazioni? Al tempo in cui scriveva il salmista, esistevano le religioni egiziana, assira, babilonese, persiana e romana, tutte attualmente ESTI Nuovo Testamento E. Il fatto che queste religioni non siano più professate evidenzia l'attendibilità della scrittura. Quelle religioni erano veramente Nuovo Testamento e false. Proprio per questo motivo, le parole pronunciate da Mosè quasi 4.000 anni fa da parte di Dio acquistano un significato più che mai unico per l'uomo di oggi. Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra, e chiedi da un'estremità dei cieli all'altra se vi fu mai una cosa grande come questa, o si è mai udita una cosa simile a questa. Vi fu mai alcun popolo che abbia udito la voce di Dio parlare di mezzo al fuoco, come l'hai udita tu, e sia rimasto in vita? O vi fu mai alcun Dio che abbia provato ad andare a prendere per sé una nazione di mezzo a un'altra nazione mediante prove, segni, prodigi e battaglie? Con mano potente, con braccio steso e con grandi terrori, come fece per voi Yahweh, il vostro Dio, in Egitto sotto i vostri occhi. Tutto questo ti è stato mostrato affinché riconosca che Yahweh è Dio e che non vo è alcun altro fuori di Lui. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per ammaestrarti, e sulla terra ti ha fatto vedere il suo grande fuoco e hai udito le sue parole di mezzo al fuoco. E perché ha amato i tuoi padri, egli ha scelto la loro progenie dopo loro e ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua presenza, mediante la sua grande potenza, scacciando davanti a te nazioni più grandi e più potenti di te, per fare entrare te e darti il loro paese in eredità, come è oggi. Sappi dunque oggi e ritienilo nel tuo cuore, che Yahweh è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e che non v' è alcun altro. Osserva dunque i suoi statuti e i suoi comandamenti che oggi ti do, affinché abbia prosperità tu e i tuoi figli dopo di te, e affinché tu prolunghi i tuoi giorni nel paese che Yahweh, il tuo Dio, ti dà per sempre. D.T. 4, 32, 40. Dio sfida qualsiasi religione ad avere un Dio che abbia eguagliato il suo operato. È vero che le nazioni avevano molti dei, ma nessun Dio si era appellato a fatti storici come il Dio di Israele, Yahweh. Egli aveva parlato, operato miracoli, dato delle leggi e tutto a favore del popolo di Israele. È evidente che Israele si ritenesse il popolo al quale Dio parlava, e per questo il salmista poteva affermare: poiché tutti gli dèi delle nazioni sono idoli vani, Yahweh invece ha fatto i cieli. SL 95:6. Ma, penserà ancora qualcuno, è facile affermare che gli dèi delle altre nazioni siano idoli vani. Un ragionamento del genere potrebbe farlo chiunque? Non è forse un'affermazione di parte o una convinzione religiosa che ha dei preconcetti? Potrebbe essere vero, ecco perché il salmista aggiunge: ma Yahweh ha fatto i cieli. L'ebreo presenta Yahweh, quale suo Dio, non come un essere impersonale, vago, indefinito, ma come il creatore di ogni cosa. Il Dio di Israele è, prima di tutto, il creatore di tutte le cose e, in quanto tale, di ogni essere vivente. Di conseguenza, il creato, con tutte le sue leggi, non si è fatto da solo mediante un'evoluzione. Su questo aspetto vogliamo soffermarci. Quella dell'evoluzione, prima di tutto, è solo una teoria e, in quanto ipotesi, non deve e non può far testo. Inoltre, non ha nessun elemento per stare in piedi. Ancora oggi, gli evoluzionisti non hanno nessuna idea chiara circa l'origine dell'universo. Ecco alcune riflessioni e domande da fare a costoro. 1. Se il nostro sistema solare è venuto all'esistenza miliardi di anni fa a causa di una condensazione di gas roteanti su se stessi, come una gigantesca ruota, perché allora il nostro Sole rotea così lentamente oggi? Quanto più il sistema di rotazione si condensa e diventa piccolo, tanto più forte deve girare. Per compensazione, il Sole, pertanto, dovrebbe roteare 100 volte più veloce di quanto non faccia. 2. Si potrebbe pensare che tutti i pianeti, siccome una volta facevano parte della stessa ruota di gas e polvere, dovrebbero girare nella stessa direzione. Ma non è così. Venere ruota lentamente in senso inverso sul suo asse, anche se orbita in avanti come gli altri pianeti. Urano ruota obliquamente, girando intorno al Sole. 3. La maggior parte dei pianeti si porta attorno dei loro piccoli pianeti chiamati lune. Venere e Mercurio non hanno lune, la Terra ne ha una. Marte 2, Giove 12, Saturno 10, Urano 5, Nettuno 2, Plutone ne ha una. Nel nostro sistema ci sono 31 lune. Ma la cosa fantastica è che queste piccole lune sembrano essere l'opposto dei pianeti. I pianeti sono grandi e ruotano velocemente, le lune sono piccole e ruotano lentamente. Com'è possibile questo? Nessun evoluzionista può immaginare la risposta. Alcune di queste lune orbitano all'indietro attorno al loro pianeta madre. Giove ha 12 lune e 4 di esse orbitano all'indietro. Saturno ha 10 lune, 9 vanno in una direzione e una nella direzione opposta. Urano ha 5 lune, che orbitano verticalmente, nessun'altra lo fa. Nettuno ha 2 lune, una va in avanti e l'altra indietro. 4. Gli evoluzionisti suppongono che i pianeti derivino dal Sole o dalla condensazione da una identica nuvola di gas o polvere. Come mai i pianeti sono fatti di materiale diverso? Infatti tutti quanti sono diversi dal Sole. Il Sole è in gran parte idrogeno fusinerio, entrambi gas leggerissimi. I pianeti sono invece molto più solidi e costituiti di elementi pesanti, ferro, nickel. Marte ha un'atmosfera molto sottile di anidride carbonica. Venere invece ha anidride carbonica molto calda. Mercurio ha un'atmosfera molto sottile di elio e argo. Giove e Saturno hanno metano e ammoniaca, sono molto leggeri, tanto che galleggerebbero sull'acqua. La Terra è l'unico pianeta che ha, inoltre, ha un'atmosfera totalmente diversa da qualunque altro pianeta. Nessun evoluzionista sa spiegare queste cose. Più fatti si conoscono, meno credibile diventa l'evoluzione. Ogni pianeta è, quindi, il risultantico testamento ODUN, Antico Testamento TOCRE, Antico Testamento IVO di Dio. Due studiosi, Giuseppe Sermonti e Roberto Fondi, criticano la teoria dell'evoluzione, dal libro Dopo Darwin, edito Rusconi. Il primo, dal punto di vista genetico, il secondo, dal punto di vista paleontologico. La teoria dell'evoluzione, come Charles Darwin la presentò nel 1859 e come molti nostri contemporanei l'hanno celebrata nel centenario, è stata contraddetta come poche altre teorie scientifiche del passato. Eppure, nonostante molti autorevoli biologi abbiano esplicitamente dichiarato l'inconsistenza del darwinismo, esso rimane tenace nei libri di scuola e sulle copertine degli opuscoli di divulgazione, persino di quelli scritti dagli stessi autorevoli scienziati. Darwin è serenamente tramontato e l'ostinazione con cui si stenta di mantenerlo in vita e addirittura di dichiararne l'attualità è ingiustificata e sospetta. Pag. 5 e 6. Le polemiche tra teismo e ateismo sono una cosa seria, ma non è ammissibile che una teoria scientifica cerchi i suoi argomenti anziché nel confronto con altre teorie scientifiche, nel mancato riscontro di alcuni fatti naturali, peraltro noti da tempo, tra i versetti di un testo sacro. Non mi sembra un rispettabile modo di procedere scientifico quello di scovare incongruenze nella Bibbia e in ciò trovare argomento per la validità di qualunque affermazione laica. Pag. 19-20. La teoria evoluzionistica non può in alcun modo essere considerata come un'innocua filosofia naturale, bensì rappresenta un serio ostacolo per la ricerca biologica. Herbert Nielsen, 1953. Pag. 135. Più che un concetto propriamente scientifico, filosofico o storico da poter essere valutato oggettivamente, in sé e per sé, la teoria dell'evoluzione è da concepirsi un mito. Dicendo un mito, non vogliamo intendere una semplice finzione, un parto arbitrario della fantasia, bensì un'idea che trae principalmente la sua forza persuasiva da elementi non razionali. Pag. 136. Tenere per scientifica una teoria priva di qualsiasi legge che la regga, a me pare un pervertimento dell'intelligenza. Pag. 147. Queste riflessioni non hanno bisogno di commento, per cui è un atto di intelligenza credere che i cieli siano stati creati da Dio in sei giorni, e una inevitabile conseguenza affermare che la fede ebraica è la sola vera fede. Una mia riflessione, per non rimanere intellettualmente offeso. Mi hanno sempre insegnato con insistenza ad usare la testa, a scuola per imparare, nella vita per vivere e riuscire. Mi hanno sempre insegnato ad essere logico, raziocinante ed a credere al credibile, a non lasciarmi sedurre e ingannare in ciò che è improbabile, impossibile. Sono profondamente riconoscente per questo principio, che mi è stato inculcato, anche perché collima con la mia naturale razionalità, con il mio modo di pensare e di vivere. Eppure, facente parte della grande contraddizione della vita, mi è stata insegnata una teoria che non sta né in cielo né in terra, e che è tuttora diffusa. Una teoria che offende grandemente la mia intelligenza, la mia logica e il mio essere come essere pensante. Sono offeso per due motivi. Uno, perché coloro che insegnano e vogliono che io accetti tale assurda teoria sono persone che, come me, hanno una ragione per verificare l'assurdità e l'incompatibilità di ciò che stanno insegnando. Due, perché si pretende, dopo che mi è stato inculcato il principio della razionalità, che io accetti e creda ciò che è impossibile credere, che dia il mio consenso a ciò che offende la mia logica. Qualcuno potrebbe pensare che mi si stia chiedendo di credere agli asini che volano, che le oche succhiano il latte. Ma, purtroppo, nulla di tutto questo, perché sarebbe evidentemente illogico da parte di chi lo vorrebbe. Eppure, vi è qualcosa di più assurdo e insensato al quale alcune persone vogliono che io creda, e, per questo, mi sento ancora più offeso. Inoltre, il mio stato d'animo peggiora quando penso che tale teoria è insegnata in tutto il mondo, è inculcata con inaudita insistenza nelle scuole a bambini e non, da persone che hanno ottenuto dei diplomi e delle lauree, e, quindi, che rappresentano il meglio agli occhi della società. Una teoria che, spiegandola, la si avvalora come un qualcosa di più di una mera teoria, e ci è di più. Tale teoria è esposta e sottilmente imposta in centinaia di documentari per televisione, documentari che sono presentati come l'avanguardia delle scoperte scientifiche. Tutto ciò ha dell'assurdo, offende più di ogni altra cosa il buon senso, ma soprattutto chi, come me, usa l'orecchio per esaminare le parole, come il palato assapora i cibi. Giobbe 34:3. Mi riferisco alla teoria dell'evoluzione. Molto si è detto molto si dirà ancora, anche se molto probabilmente presto verrà abbandonata l'opinione di oggi. Ciò che mi fa star male, però, è che milioni di persone, pur di non credere che esista un essere che ha creato intelligentemente ogni cosa, hanno accettato e accettano ragionamenti che sono una pura offesa all'intelletto. Iniziamo subito a fare un ragionamento puramente logico, assennato, che non può avere contraddizioni. Qualsiasi valore noi diamo alla Bibbia, sia che la si reputi un libro religioso non valevole per i nostri tempi, sia che la si ritenga la parola di Dio, in essa sta scritto che ogni casa è costruita da qualcuno, ma colui che ha fatto tutte le cose è Dio. Ebrei 3:4. Questa affermazione è composta da due concetti. Prima di guardare al secondo, valutiamo quello che lo precede. Ogni casa è costruita da qualcuno. Che scoperta, si dirà. È evidente che se esiste una casa, essa non è sorta così per caso. Non si è fatta mediante un improvviso colpo di vento che ha messo insieme acqua, terra, calce, formando mattoni, i quali, a loro volta, mediante un altro strano processo della natura, si sono messi uno sopra l'altro, in armonia tale da formarne una casa. Chi affermasse questo non resterebbe più di 2 minuti fra persone assennate, ma sarebbe ricoverato subito in un luogo adatto per chi ha perso il lume della ragione. Quindi è evidente e conforme alla ragione, alla logica, al nostro intelletto, affermare con profonda convinzione che, se esiste un'opera qualsiasi essa possa essere, sedia, tavolo, macchina, vestito, essa altro, non è che il risultato di una creazione operata da qualcuno. Molto probabilmente noi non abbiamo mai visto il sarto, il muratore, il falegname compiere la propria opera, ma anche se non lo abbiamo visto, la nostra logica, la nostra ragione si impongono, dicendoci che è impossibile che tali opere siano venute all'esistenza da sole o mediante un movimento ordinato della natura. Esaminiamo la seconda parte dell'affermazione. Colui che ha fatto tutte le cose è Dio. Comprendo pienamente la reazione negativa di fronte a questa affermazione da parte di chi sostiene di essere ateo o di chi continua a dichiarare che Dio non esiste secondo i propri vari presupposti. Comprendo. Ma il ragionamento che troviamo in questa affermazione non può essere rifiutato a priori solo sulla base dei propri presupposti. Tale affermazione andrebbe però rigorosamente rifiutata, se fosse possibile, sulla base della sua illogicità, per il fatto che contrasta con la nostra logica, con la nostra ragione, con il nostro intelletto o intelligenza. Noi viviamo in una casa, viviamo in un creato che è adatto alla nostra esistenza, composto di aria, sole, terra, di leggi terrestri e cosmiche. In questa casa viviamo e ci muoviamo. Da poco tempo, gli scienziati hanno scoperto la perfezione del nostro sistema solare e la nostra appartenenza ad una delle migliaia di galassie che esistono nell'universo. Un'armonia terrestre cosmica in grado di disorientarci, tanto è perfetta e vasta. Non solo. A volte ci perdiamo ad esaminare queste dimensioni che superano la nostra intelligenza. Ma se pensiamo che gli studiosi stimano che sulla Terra vi siano più di 1 milione di specie di animali con caratteristiche uniche, peculiari, indipendenti eppure interdipendenti, nella loro esistenza il nostro ragionamento va in cortocircuito, non riesce ad abbracciare la vastità e la complessità del mondo e dello spazio in cui viviamo. Ci è di più. In questo immenso e complesso creato, ci siamo anche noi come razza umana, pensante, che a nostra volta viviamo in armonia con tutto ciò che ci circonda. Regno minerale, vegetale e animale, armonia e interdipendenza tanto delicate che l'uomo si trova costretto a rimediare quando ne sconvolge l'equilibrio per amor di lucro. Eppure, nonostante non abbiamo da noi creato tutto questo, nonostante veniamo all'esistenza in un mondo dove tutto è già preparato perché sia possibile per noi viverci, nonostante abbiamo preso atto dell'immensità e perfezione di un creato a noi sconosciuto, alcune persone dotate di intelletto e di ragionamenti conformi alla logica e all'intelligenza sostengono la teoria secondo la quale tutto ciò sia avvenuto all'esistenza mediante un processo di molecole e della forza della natura. Niente di più offensivo alla mia intelligenza. Dico alla mia, per non dire all'intelligenza e alla razionalità di chiunque ne sia dotato. Credo sia un atto di onestà venire allo scoperto e esprimere chiaramente il proprio pensiero. Non è affatto conforme alla ragione negare per il solo gusto di farlo, o nella peggiore delle ipotesi, per sostenere una teoria avente nulla a spartir con il buon senso. Mi può andare bene che qualcuno confuti l'esistenza del Dio della Bibbia, dove è descritto che nel principio Dio creò i cieli e la terra, ma affermare che questo immenso e complesso creato sia sorto per caso, dove gli elementi in un'armonia assurda e illogica siano riusciti a formare tutto ciò che vediamo, compreso i miliardi di esseri viventi diversi e interdipendenti, non è conforme a nessun ragionamento logico che un essere pensante e razionale possa fare. Demolire una tale illogica affermazione, sfidando e sfatando la sua notorietà e presunta veridicità, è assolutamente logico e altrettanto razionale. Come sarei ritenuto pazzo sostenendo che la mia enciclopedia, nella quale troviamo milioni di lettere messe in ordine per formare delle parole e dei ragionamenti sensati, si sia formata per puro caso, così si dovrebbe ritenere pazzo, anormale, squilibrato. Chi sostiene la teoria di un creato venuto all'esistenza mediante un processo di evoluzione? Nessuno, e sottolineo nessuno, ha mai dimostrato che dal disordine si forma l'ordine. Al contrario, è evidente, e l'esperienza lo dimostra, che dal disordine si va verso il disordine. Eppure, noi siamo in grado di insegnare, di presentare in televisione seri documentari scientifici dove si spiega la teoria dell'evoluzione, secondo la quale da una nebulosa, dal caos, dalla confusione si è formato questo perfetto creato. Ecco perché sono intellettualmente offeso quando si pretende di insegnarmi la teoria dell'evoluzione. La spiegazione dell'esistenza di questo complesso e immenso creato non può essere altra, se non che è stata una mente razionale, logica, matematica a formare tutto questo. Che poi questa creatura sia il Dio della Bibbia o un altro essere superiore per il momento non ha valore, ma almeno riconoscere obiettivamente un creatore intelligente è conforme alla logica, alla ragione. Non è una offesa alla ragione. Anzi, se sono in grado di comprendere e di sostenere che se esiste una casa questa, altro non può essere se non per l'opera di qualcuno, allora la mia ragione e la logica conseguenza mi dicono che tutto ciò che ci circonda, armonioso in armonia con il resto della natura, è stato costruito da qualcuno. Si dice che una volta gli uomini fossero ignoranti e rozzi, ma l'affermazione della Bibbia dimostra che migliaia di anni fa gli uomini erano perlomeno molto più logici, pratici e realisti. Non si erano dati a vani ragionamenti. Una volta stabilito che è stato un essere intelligente e razionale a creare questo complesso, armonioso, perfetto e matematico universo, sempre per amore di logica e razionalità, è doveroso scoprirne l'autore. Anche se noi non lo abbiamo visto, secondo la scrittura, la Bibbia, la parola di Dio, è stato Cristo a creare ogni cosa. Affermazione che può benissimo essere rifiutata e considerata di parte. Ma poiché Cristo è stato dichiarato, fin dalla notte dei tempi, il creatore razionale e intelligente, fattosi uomo, colui che ha creato l'universo, gli animali, l'uomo e la donna ad immagine di Dio, non comprendo dove la mia logica e razionalità possa sbagliare. Non ho certamente visto il Creatore, ma le sue opere le tocco ogni giorno. Non è solo fede. Si tratta soprattutto di razionalità, poiché mi è sempre stato insegnato di usare la testa, di essere logico, raziocinante e credere al credibile, di confrontare la mia razionale fede in un creatore con la teoria dell'evoluzione, o qualsiasi altra teoria che verrà in futuro e nella quale si escluderà ogni intervento metafisico. Almeno non resterò in Nuovo Testamento e letto al mio Nuovo Testamento offeso. ILSENTIMENTORELIGIOSO. Il sentimento religioso è una disposizione intima dell'uomo che lo spinge ad elevarsi oltre il mondo sensibile, verso un mondo superiore, eterno, e per unirsi all'essere supremo, Dio. E un sentimento innato, cioè inerente alla natura umana. Dio stesso ha suscitato in noi il bisogno di cercarlo. Il mio cuore mi dice: da parte tua, cercate la mia faccia. SL 27:8. Si tratta quindi di un sentimento o predisposizione, inclinazione, che non può essere né creato né distrutto dagli uomini. In tutti i popoli della terra ed in tutti i tempi si riscontra il fenomeno religioso, anche se, nelle forme più diverse, perché diversissime sono le condizioni di civiltà in cui i popoli si sviluppano. Alcuni hanno rilevato che certe idee religiose, manifestazioni rozze e superstiziose di religione, siano dovute a mancanza di cultura. Ma non è così, anzi, avviene di solito che, col dissiparsi dell'ignoranza, la religione non solo si affina, ma cresce. E, accertato che una grande maggioranza di veri scienziati professarono e professano di credere in Dio. Risulta così vero il detto di Bacone: poca scienza allontana Dio, molta scienza riconduce a Dio. Può essere utile citare alcuni di questi scienziati: Copernico, Galilei, Keplero, Newton, Eulero, Faraday, Morse, Pasteur. Possiamo perciò affermare con sicurezza che l'uomo è naturalmente religioso, dotato di un sentimento che l'ambiente può favorire o ostacolare, ma non creare né distruggere. Si tratta di un sentimento innato che l'educazione può fortificare e perfezionare, come si perfezionano le altre qualità dell'anima. Le manifestazioni esteriori e storiche di questo sentimento costituiscono le varie religioni del mondo. La parola di Dio afferma: Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. E, ancora, questo soltanto ho trovato, che Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi. Ec 3:11-7:29. L'Apostolo Paolo scriverà nella lettera ai Romani: punto onde è che essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato. Per Dio, latu turu quomo, che rifiuta il sentimento religioso, è inescusabile. Alcune religioni estinte. Le religioni del mondo vanno considerate come altrettante espressioni, diverse le une dalle altre e tutte imperfette, del sentimento religioso. Le principali religioni anteriori al cristianesimo, oggi estinte, furono le seguenti. A. La religione egiziana. Essa aveva centinaia di dei: Iside, la terra, Osiride, il sole, mummie e piramidi, concetto della durata, ed esprimeva il culto al bove. B. La religione babilonese. Essa divinizzava gli elementi della natura, praticava la magia, l'astrologia, aveva statue colossali. C. Il politeismo greco. In questa religione gli dei in Olimpo vivono. Una legione di esseri divini inferiori personificano i vari aspetti del mondo spirituale, le facoltà umane, i fenomeni naturali. La mitologia greca, mirabile dal lato artistico, ha scarsissimo valore spirituale. Anche se l'antica Grecia produsse uomini grandi, come i tragici Eschilo e Sofocle, ed i filosofi Socrate e Platone, il loro insegnamento era più una filosofia che una religione. D. Il politeismo romano. La religione romana fu una religione essenzialmente utilitaria, al servizio dello Stato dal quale era mantenuta. Degli abitanti della terra, oltre i 2/3, professano delle religioni pagane. I popoli cosiddetti incivili e selvaggi professano credenze ed hanno pratiche religiose molto rozze e strane, talvolta crudeli: feticismo, animismo, polidemonismo, magia, stregoneria, eccetera. Al di sopra di queste basse concezioni e forme di religione se ne elevano altre, cosiddette superiori, le quali saranno oggetto della nostra attenzione. Situazione religiosa divisa per Nuovo Testamento IN e Nuovo Testamento OI. America del Nord. Cattolica e protestante. America del Sud. Maggioranza cattolica. Asia. Occidentale. Africa. Nord. Sud. Europa. Confucianesimo, induismo, buddismo, animismo. Nord orientale. Cattolicesimo. Italia, Francia, Portogallo, nord occidentale. Religione greco-ortodossa, Romania, Jugoslavia, Grecia, Bulgaria. Le maggiori religioni del mondo. PRI, MADI, CRI, STO, DO, PO, CRI, STO. 1. Induismo. 2. Ebraismo. 3. Buddismo. 4. Taoismo. 5. Confucianesimo. 6. Islamismo. 7. Shintoismo. 8. Testimoni di Geova. 9. Mormoni. 10. New Age. 12. Ortodossi. 13. Cattolicesimo. 14. Protestantesimo. Per ogni religione esaminata verranno considerati i seguenti aspetti: A. Quando è nata. B. Chi l'ha fondata. C. Cenni storici. D. Alcune credenze spirituali. E. Definizione. F. Confronto con la scrittura. Perché lo studio possa essere proficuo per ogni religione, si dovrà rispondere alle seguenti domande. 1. Quali sono le maggiori religioni dopo e prima di? 2. Quando è nato e chi ha fondato questa religione? 3. Scrivi alcuni cenni storici. 4. Cita alcune credenze spirituali. 5. Dai una definizione di questa religione. 6. Quali sono gli errori confrontati con la parola di Dio? E. La più antica religione vivente. L'induismo C. Cenni storici. Non ha propriamente una storia. D. La religione dell'India. Ha avuto personaggi di rilievo come Ram Mohan Rai, Rabindranath Tagore, Gandhi, forse il più conosciuto, Swami Narayan, Sai Baba. E. La più bassa e superstiziosa delle grandi religioni, con pratiche spesso impure e crudeli. La vitalità dell'induismo sta nel suo sistema di casta, che tiene legati insieme gli abitanti dell'India. L'induismo professa 330 milioni di dei. I tre principali sono il creatore, Brahma, il distruttore, Shiva, Vishnu, il conservatore. I suoi libri sacri sono gli antichissimi Veda. Lo yoga. Yoga significa unione. Comprende un insieme di tecniche fisiche e psichiche che mirano al perfetto raccoglimento, al completo possesso di sé. L'induismo non è tanto una religione, ma una cultura che abbraccia ogni tipo di religione. 1. Vi è un solo Dio. Is 44:6. Così parla l'Eterno, Re di Israele suo Salvatore, l'Eterno degli eserciti. Io sono il primo e sono l'ultimo. E fuori di me non ci è Dio. Se questo non è vero, l'Eterno è la più grande divinità bugiarda. Se è vero, tutti gli altri dei sono nel falso. 2. Una vera fede è basata su fatti storici. LC 3:1-2. Or nell'anno 15 dell'impero di Tiberio Cesare, essendo Ponzio Pilato governatore della Giudea, ed Erode il tetrarca della Galilea, e Filippo suo fratello tetrarca della Iturea e della Traconitide, e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Una fede si può discutere, gli eventi storici come tali, no. 3. C. È una sola via per andare in cielo. GV 14:6. Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Il cristianesimo è radicale. Gesù ha dichiarato che solo lui è il mezzo per accedere al Padre. L'ebraismo, 23 gradi secolo avanti Cristo, anche se la sua fede risale alla creazione del mondo. Genesi 1. 1. Yahve, cioè Cristo. Abramo emigrò dalla Caldea, per vocazione divina, e si stabilì nel paese di Canaan. Nel 14 secolo avanti Cristo, Mosè condusse il popolo a adorare un solo Dio, personale e vivente. Mediante tale culto all'unico Dio, gli israeliti giunsero a proclamare la dottrina del monoteismo assoluto. Questo popolo raggiunse il culmine della gloria e prosperità sotto i re Davide e Salomone, dopodiché iniziò una decadenza come nazione, terminata con la deportazione per opera di Nabucodonosor nel 586. Nel III secolo a.C. si verificò un risveglio nazionale, ma nel 70 d.C. Gerusalemme fu distrutta assieme al Tempio. La vita religiosa degli ebrei, dispersi per tutto il mondo, si concentrò nelle sinagoghe, dove il loro culto è celebrato dai rabbini il sabato. Ancora oggi leggono la legge e i profeti, in attesa del Messia promesso. La legge di Dio si divide in tre parti. Legge morale valida per sempre, come per esempio i 10 comandamenti. Legge civile se si adattano alle leggi dei popoli dove abitano. Legge religiosa, mancando il Tempio e la loro fede è espressa in modo limitativo. 1. Credono in un Dio unico, il quale non può avere un corpo. 2. Il sacerdozio è mezzo di mediazione fra Dio e gli uomini. 3. Offrono animali in sacrificio come mezzo di perdono per i propri peccati. Avendo rifiutato Gesù, il figlio di Maria, come il Messia profetizzato, non hanno capito lo spirito della legge di Dio. Cristo è la chiave di lettura dell'Antico Testamento, come del resto afferma anche l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi. 3 e 14, parlando degli ebrei, sino al giorno d'oggi, quando fanno la lettura dell'Antico Patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Le norme che gli ebrei avevano ricevuto da Yahweh non dovevano diventare una forma religiosa, ma dovevano servire per avvicinarsi a Dio nel modo giusto. 1. Vi è una sola divinità, ma non è sola. Nella divinità sussistono tre persone. MT 28:19. Battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. La Trinità non è una invenzione umana, ma è stata rivelata da Gesù Cristo, G1:18. 2. Vi è un solo mediatore, 1 Tidili 2:5. Poiché Vimb è un solo Dio ed anche un solo mediatore, fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Se Gesù è il solo mediatore, chi va a Dio tramite altre persone o diverse divinità, incontra il diavolo. 3. Vi è un solo sacrificio, Eb 10:12. Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, e per sempre si è posto a sedere alla destra di Dio. Ogni sacrificio religioso non rivolto al vero Dio è offerto ai demoni, 1 Co 10:20. Il sacrificio di Gesù, Cristo ha riconciliato l'uomo a Dio e ha accordato il totale perdono a tutti di tutti i peccati, 2 Cor 5:19. Le religioni cinesi. La religione in Cina è un caso unico. Ciò si deve in parte al fatto che, sola tra le grandi religioni dell'umanità, si sviluppò inizialmente nell'isolamento, senza subire l'influsso delle altre religioni mondiali. Il confucianesimo e il taoismo, due delle tre grandi fedi della Cina, modellarono le loro forme distintive, prima di stabilire un qualche contatto significativo con il resto del mondo. Per questo, la religione cinese ha assunto una forma che spesso sembra del tutto diversa da qualsiasi altra. Così, né il confucianesimo né il taoismo somigliano al giudaismo, al cristianesimo o all'islam, le grandi religioni monoteistiche con Dio al loro centro. Le prime forme della religione cinese non sono chiare. Sappiamo poco di preciso sulla religione della grande dinastia Shang, 1750-1050, avanti Cristo, la prima dinastia storica. Gli Shang vivevano in un mondo popolato di spiriti e di potenze che influivano direttamente sull'esistenza dei vivi, i loro successi e i loro fallimenti. Esigevano sacrifici e soddisfazione, cercavano di indovinare i desideri di questi spiriti mediante un complicato sistema di divinazione e li interrogavano su quasi tutto ciò che facevano. Le grandi religioni cinesi si sono sempre influenzate reciprocamente. La Cina antica conobbe dispute e controversie tra taoisti e confuciani, grazie alle quali però ambedue le parti giunsero a precisare i loro atteggiamenti caratteristici. Il quadro si complica ancora di più con l'introduzione del buddismo in Cina. Sia il taoismo sia il confucianesimo presero molte cose in prestito dalla nuova religione indiana. La reciproca fecondazione delle religioni in Cina toccò il suo apice sotto la dinastia Ming, 1369-1644 a.C. Allora molti grandi pensatori religiosi, come Lin Chaoen, 1517-1598 a.C., cercarono di armonizzare le tre grandi religioni cinesi affermando che erano una sola religione. Lin cercò di combinare i tratti migliori della meditazione taoista e buddistica, unendoli al senso confuciano di partecipazione e solidarietà con gli altri in una sintesi propriamente cinese. Questa forma di vita religiosa sincretistica è ancora oggi presente nella Cina odierna. La maggior parte dei cinesi religiosi praticano di fatto un misto di tutte e tre le grandi religioni, al punto che nessuno ritiene una cosa strana essere contemporaneamente buddista, taoista e confuciano. Il taoismo. Nel secondo secolo, a Catenche, si ricordano grandi pensatori taoisti, Lao Tzu, Lao Tse, e Chuang Tzu, Zhuang Zi. Pochissimo si conosce della loro vita, supposto che siano esistiti. 1. Il taoismo ha delle dottrine esoteriche. Con questo termine si indica qualcosa che è accessibile solo agli iniziati speciali. 2. I taoisti credono nel Tao, un assoluto metafisico. L'aggettivo è riferito a ciò che si considera primo, supremo, eterno, necessario, immateriale, soprannaturale, trascendente. 3. I taoisti si dedicano alla contemplazione mistica, alla ricerca della perfezione. 4. I taoisti praticano il mestiere di indovini, incantatori, esorcisti. Il taoismo è un insieme di dottrine mistiche a carattere filosofico. 1. Le verità di Dio sono accessibili a tutti. MT 11 e 25. Punto punto. Gesù prese a dire: Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. È vero che nella Bibbia ci sono cose difficili da comprendere, 2 PT 3 e 16, ma il suo messaggio può essere compreso anche da un bambino, MT 11 e 25. Non siamo responsabili di ciò che non comprendiamo, DBT 29 e 29, ma di quello che comprendiamo e non mettiamo in pratica, MT mezzogiorno e 36. 2. L'assoluto, Yahweh, è una persona della Trinità con un carattere definito, S 34, 5 a 7. Allora Yahweh discese nella nuvola e si fermò là vicino a lui e proclamò il nome di Yahweh. E Yahweh passò davanti a lui e gridò: Yahweh, Yahweh, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che usa misericordia a migliaia, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non lascia il colpevole impunito, e che visita l'iniquità dei padri sui figli e sui figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. E bene tenere presente il carattere di Yahweh Dio, perché se anche è buono e perdona, non lascia però impunito il colpevole, cioè chi non ha i peccati perdonati. 3. La divinazione è proibita da Dio. DT 18, 10, 12. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il suo figliolo o la sua figliola per il fuoco, né chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante, perché chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno. Essere in abominio a Dio significa essere odiati, ripugnanti. Anche se tu credi di essere in regola, le tue convinzioni sbagliate non annullano gli atteggiamenti di Dio. Il buddismo, metà del VI secolo avanti Cristo. Buddha, che vuol dire illuminato. Siddhartha Gautama Shakyamuni, soprannominato Buddha, nacque nel 566 avanti Cristo a Lumbini Park, in una famiglia aristocratica. Suo padre non gli fece mancare nulla. Si sposò a 19 anni con Jasodhara. Per 13 anni visse nel lusso conducendo una vita domestica. A 29 anni decise di lasciare il mondo, la moglie, il figlio, che era nato quel giorno, per andare alla ricerca della risposta ai problemi della sofferenza, della vecchiaia, della morte. Dopo 49 giorni di meditazione e di digiuno, nel mese di maggio, a 35 anni, raggiunse l'illuminazione. Da allora predicò nel nord dell'India. Morì a 80 anni. E, Importante rilevare che la filosofia buddista non ha quasi niente in comune con la religione popolare chiamata buddismo, la quale conta la massima parte dei suoi aderenti fuori dall'India, cioè in Cina e in Giappone, dove i confucianisti e gli shintoisti sono al tempo stesso buddisti. Fino al III secolo a.C. veniva adorata l'effigie di Buddha stesso. Nel Tibet si trova il buddismo organizzato gerarchicamente con un sommo pontefice, il Dalai Lama, cattedrali, conventi, processioni, reliquie, acqua benedetta, eccetera. 1. Crede nella trasmigrazione uguale. La nostra vita presente continuerà in una nuova vita. La reincarnazione dell'anima. 2. Crede nel nirvana uguale uno stato della mente e del cuore, in cui ogni desiderio di vivere è estinto. 3. Professa la dottrina dell'anatta uguale, insegna che niente è permanente, tutto è provvisorio. Non c'è. È un'anima, ma una non-anima. Il buddismo è una filosofia, nella quale manca il concetto di Dio e la cui morale, pur essendo superiore a quella dell'induismo, è alla fine negativa ed egoistica. 1. La trasmigrazione o la reincarnazione non esiste, e B927. È stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Ogni essere umano e ogni animale ha una propria anima, ma, una volta che questa si separa dal corpo, non vi torna. Dopo la morte, lo spirito dell'uomo torna a Dio che lo ha dato. EC 12.7. 2. Il nirvana elimina una parte dell'essere umano. Dio ci somministra copiosamente ogni cosa, perché ne godiamo. 1 Tim 6.17. L'uomo è chiamato a vivere pienamente la sua umanità. Nel giorno felice deve rallegrarsi, nei giorni di avversità riflettere. EC 7.14. 3. La dottrina dell'anatta è infondata. 1 Te 5:23. Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile. Che tutto quello che vediamo sia provvisorio è una parte di verità. Questo spiega perché il credente contempla le cose che non si vedono perché sono eterne, 2 Cor 4:18. Cioè alle virtù cristiane e alle promesse dei tesori e dei premi in cielo, MT 6:20, 2 Tim 4:8. Il confucianesimo, nel VI secolo a.C. Confucio. Confucio nacque nel 551 e morì nel 479 a.C. Alla sua nascita, la Cina era divisa. Dopo una povera infanzia, e dopo aver ricoperto alcune modeste cariche amministrative, a 50 anni fu chiamato dal principe Lu come ministro, e l'anno seguente, nel 500 a.C., fu nominato ministro della giustizia. Confucio lavorò per restaurare il regno, ma le sue aspirazioni non furono adempiute. Negli ultimi anni della sua vita si dedicò all'insegnamento della sua dottrina e alla raccolta degli scritti e delle gesta del passato. Le opere nelle quali è, per la maggior parte, raccolta la sua dottrina sono gli Wu Qing e i SS Wushu. D. Alcune credenze spirituali. Il confucianesimo è una delle tre forme religiose cinesi. È la setta dei letterati. Le altre due sono Tao Tiao, taoisti, e Fu Qiao, buddisti, quest'ultima di provenienza indiana. Questa religione consiste specialmente nel culto degli antenati, che è una antichissima istituzione. Il confucianesimo non è una religione istituzionale come il buddismo o il cristianesimo. Esso non ha né sacerdoti né dogma. Il confucianesimo non è neppure una religione di salvezza come il cristianesimo o il buddismo. Non ha nozione di peccato. Non ci sono speciali credenze religiose se non l'ammissione del concubinaggio e della poligamia. Confucio fu un moralista ed un legislatore. Quindi il confucianesimo non è altro che un insieme di codici morali e civili basati sulla rozza religione politeista cinese. 1. L'uomo è un peccatore perché Dio ha dato una legge. Il peccato è la violazione della legge. 1 GV 3:4. Dove non ci è legge non ci è neppure trasgressione. Ro 4 e un quarto. Il peccato non è un'invenzione dei religiosi, ma è la disubbidienza al volere di Dio. 2. La moralità dell'uomo non lo salva. Ro 3, 28. Noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Anche la condotta più perfetta non dà nessun diritto all'uomo di entrare in cielo. Se così fosse, Gesù sarebbe morto invano. Gal 2, 21. 3. Il culto va reso solo a Dio. MT 4 e 10. Gesù disse: adora il Signore Dio tuo, e da Lui solo rendi il culto. Ogni atto religioso deve essere rivolto solo all'unico Dio trino che si è rivelato in Cristo sul Monte Sinai. E, in seguito, in Gesù quale corpo di Dio, G. Grind, 1 e 18, col 1 e 19, 2 e 9. LEREELIGIONIDOPOCRISTO. Le grandi religioni prima di Cristo si sono rivelate false. Alcune di esse sono estinte, mentre le altre, tuttora esistenti, più che essere delle religioni in cui vi è il concetto di un Dio e delle norme di culto, sono un insieme di regole morali, filosofiche e mistiche. Non è così per le religioni sorte dopo la venuta di Gesù. Esse meritano un altro approccio. Tutte affermano di essere la vera fede, o, come la maggioranza di esse affermano di essere l'unica vera fede. Anche in questo caso sorge la stessa domanda postaci per le religioni prima di Cristo. Quale di queste religioni è quella giusta? Come è possibile essere obiettivi e scegliere quella giusta quando alcune di queste religioni sono simili? Innanzitutto bisogna partire da un presupposto inevitabile, ammettere la possibilità che la propria religione non sia quella giusta. Senza questo presupposto, ogni tentativo per comprendere qual è la religione giusta nutre dei preconcetti. Inoltre, un'altra ragione, che ci deve rendere cauti nello stabilire frettolosamente la religione giusta, è che tutti gli uomini fondatori delle diverse religioni hanno affermato grandi verità. A questo punto sembra che il nostro problema non abbia via di sbocco, e sarebbe veramente così. Se un Galileo, di nome Gesù, non avesse proferito una dichiarazione unica nel suo genere, io sono la verità. Una tale affermazione non può lasciarci indifferenti perché essa è unica nella storia dell'umanità. Maometto disse di essere il profeta di Dio. Buddha disse di essere l'illuminato. Russell disse di avere avuto delle rivelazioni. Moon afferma con la moglie di essere la coppia messianica. Il Papa afferma di essere il successore di Pietro. Nessuno, quindi, ed è bene sottolinearlo, nessuno ha mai affermato ciò che Gesù disse, cioè io sono la verità. Egli non dichiarò di seguire una verità, o di dire la verità, ma che egli è la verità. Se tale affermazione è falsa, allora tutto quello che ha detto non ha nessun valore. Egli diventerebbe il più grande impostore che la storia conosca e il cristianesimo sarebbe la più grande beffa per l'uomo, che crede di essere riconciliato con Dio. Se invece è vero le sue parole sono veritiere, egli diventa la linea di demarcazione in merito al problema religioso. Solo le religioni che seguono gli insegnamenti Nuovo Testamentoi di Gesù possono essere nella verità. Il nostro lavoro non ci permette di affrontare tale problematica, ma la soluzione più ovvia è che Gesù sia veramente quello che ha sostenuto di essere. Prova ne è che i fondatori di altre religioni sorte dopo la sua nascita si sono rifatti spesse volte a ciò che Gesù ha insegnato. Cosa insensata se Gesù fosse stato un pazzo o un esaltato. Inoltre, per quanto riguarda noi, italiani, la nostra storia, la nostra letteratura, la nostra filosofia, la nostra tradizione giuridica, i quadri dei nostri musei e i monumenti delle nostre città, tutte le componenti che noi chiamiamo civiltà, trovano le loro radici e la maggior fonte di ispirazione in ciò che Gesù ha insegnato. Preso atto di questa eredità, resta da spiegare come mai la scuola italiana di tutto questo non si ponga neppure il problema e come sia possibile laurearsi in lettere, storia, filosofia, arte, senza neppure conoscere anche superficialmente gli insegnamenti di Gesù. Una spiegazione plausibile è che il cattolicesimo romano sia più interessato a far conoscere al credente i contenuti religiosi della religione cattolica e a far sì che questi si sottometta alle autorità da essa preposte, anziché indirizzare a Gesù Cristo chi ha sete di verità e di salvezza, per ottenere il perdono dei peccati. Le grandi religioni di oggi che si dichiarano seguaci di Cristo con una fede storica che si ricollega all'insegnamento degli apostoli sono tre: quella ortodossa, quella cattolica romana, quella protestante Nuovo Testamento e, per conoscenza, esamineremo anche le altre religioni delle quali abbiamo accennato all'inizio del nostro studio. L'islamismo. 7 secoli dopo Cristo. Maometto. Maometto nacque nel 570 alla Mecca e morì nel 632. Rimasto orfano molto giovane, incontrò uomini e donne, ebrei cristiani, che cercavano Dio. A 25 anni, sposatosi con una facoltosa commerciante, divenne presto un uomo ricco e un cittadino influente di La Mecca. Nel 610 cominciò a predicare il messaggio che riteneva aver ricevuto da Dio tramite l'angelo Gabriele. Perseguitato, andò a Medina nel 622, dove fondò il primo stato islamico. I musulmani credono in 4 libri sacri. 1. Il Pentateuco, rivelato a Mosè. La Torah. 2. I Salmi, rivelati a Davide. 3. Il Vangelo, al singolare, rivelato a Cristo. 4. Il Corano, rivelato a Maometto. Il Corano abroga, rende inutili le leggi precedenti. Ammette la poligamia, la propaganda mediante la spada. La spada è la chiave per aprire il cielo. Chiunque cade in battaglia avrà il perdono dei suoi peccati. Un vero musulmano deve compiere 5 obblighi rituali. La recita del credo, la preghiera rituale 5 volte al giorno, l'elemosina, il digiuno obbligatorio. Durante tutto il mese del Ramadan, il pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita. L'islamismo è un rafforzamento di elementi derivanti dal giudaismo cristianesimo e dalle religioni dell'Arabia. 1. Il Corano non è la parola di Dio. Santificali nella tua verità, la tua parola è verità. GV 17.17. Quando Gesù disse queste parole, il Corano non esisteva. Gesù disse che la verità proveniva direttamente da Dio, mentre Maometto ha avuto una rivelazione da un angelo. Paolo disse: 2 anni Corano na ciao la quanti la stai Corano na hai tu cari. Anche se noi o un angelo dal cielo vi predicasse un evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Gal 1.8. Satana si trasforma anche in un angelo di luce. 2 Cor 11:14. 2. Le armi del cristiano sono spirituali. 2 Cor 10:4. Le armi della nostra guerra non sono carnali. I veri cristiani, seguaci di Gesù, non usano le armi per evangelizzare. Il cristiano annunzia, propone, non impone. L'amore non fa alcun male al prossimo. Rot 13:10. 4. Solo Gesù non ha mai peccato. GV 8:46. Chi di voi mi convince di peccato? Gesù è stato l'unico essere umano a non aver mai commesso un errore. Mentre Maometto ha chiesto perdono ad Allah 3 volte. È più facile che abbia sbagliato Maometto o Gesù. E Gesù, che razza di uomo era se non ha mai commesso un peccato? Uno solo è perfetto, Dio. Gesù è l'impronta dell'essenza di Dio. E B1, 3. Si può dire questo di qualcun altro, compreso Maometto? Si sviluppò in modo particolare prima della Seconda Guerra Mondiale. Lo shintoismo. Secondo la mitologia, il primo imperatore discendeva dalla dea del sole. Le isole e il popolo del Giappone nacquero da dei. Questa credenza spinge il popolo a riverire e adorare l'imperatore come Dio. La parola Shinto significa letteralmente la via dei kami. Kami vuol dire Dio, in un senso molto vago. Lo Shinto non è una dottrina religiosa definita e codificata. Non ha fondatore, né sacre scritture, né dogmi precisi, né interpreti autentici. I templi sono l'abitazione di uno o più kami. L'oggetto sacro del tempio è simbolo di questa presenza divina. I due oggetti più comuni sono la spada e uno specchio. Lo shintoismo sollecita l'orgoglio del popolo giapponese, il sapere di essere progenie di dei e, come tale, superiore al resto del mondo. Lo shintoismo insegna che la natura dell'uomo è essenzialmente buona. Il peccato e l'impurità non vengono dall'interno, bensì dagli agenti esterni come gli spiriti maligni. Ecco quindi la necessità dei riti di purificazione e di esorcismo, attraverso i quali l'uomo si rende puro senza macchia. Lo shintoismo è un nome che abbraccia tutte le fedi o credenze del popolo giapponese negli oggetti o fenomeni ritenuti kami, superiore e straordinario. 1. L'uomo è e rimane una creatura di Dio. Geuna 27. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. L'uomo non è né un angelo né una bestia. Prova ne è che quando corrompe la sua natura umana diventa peggio di una bestia, la quale con i suoi istinti rimane sempre quella. Se invece eleva se stesso, l'uomo non arriverà mai ad essere come un angelo, né tantomeno un dio. 2. L'Eterno Dio non abita in templi umani, at 7 e 48. L'Altissimo non abita in templi fatti da mano d'uomo. Un locale di culto fa parte dell'universo e, se Dio è in ogni luogo, è anche dove vi sono gli adoratori. Gesù ha affermato che i veri adoratori adorano Dio in ogni luogo, in spirito e verità, GV 4:21-25. 3. La natura dell'uomo è irrimediabilmente malvagia, MR 7:14-23. Dal di dentro del cuore dell'uomo escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Perfino il credente che riceve una natura nuova e santa mediante lo Spirito Santo mantiene la sua vecchia natura, incline alla malvagità, e per questo non è libero di fare quello che vuole. Gal 5:17. Se pecca, è lo Spirito Santo che lo riprende. Se desidera fare il bene, ha la natura corrotta che glielo vuole impedire. I testimoni di Geova. Circa nel 1872. B. Il fondatore. Charles Taze Russell. Russell nacque il 16 febbraio 1852. Non seguì alcun corso teologico, né conobbe mai il greco o l'ebraico. Dal 1876 al 1878 fu vice direttore di una piccola rivista pubblicata a Rochester, nello stato di New York, posto dal quale rassegnò le proprie dimissioni per una controversia dottrinale. Poco dopo, Russell iniziava la pubblicazione del periodico La Torre di Guardia. 1. Si autodefiniscono gli unici testimoni di Geova, cioè di Dio. 2. Negano la divinità di Gesù. 3. Insegnano che lo Spirito Santo è la forza attiva di Dio. 4. Affermano che gli increduli non saranno eternamente separati da Dio, ma cesseranno di esistere. Le credenze dei testimoni di Geova sono un misto fra idee loro proprie e altre prese in prestito da avventisti e mormoni. E una religione che pretende di basarsi sulla Bibbia, ma che ha invece adattato quest'ultima alle proprie convinzioni. 1. I testimoni di Geova nominati in Isaia 43, 10 sono gli ebrei. Così parla Yahweh, o Giacobbe, i miei testimoni siete voi. Un testo preso fuori dal contesto diventa un pretesto. Infatti, Yahweh Dio rivolge le sue parole agli ebrei, affermando molto chiaramente di aver scelto solo Israele fra tutti i popoli, DT 10 a un quarto. In merito poi al nome Geova non si tratta d'altro se non di una traduzione sbagliata del tetragramma consonantico Yahweh, il quale va letto J-A-H-D-U-I. 2. Gesù è Dio, GV 5:18. Gesù è stato crocifisso perché diceva di essere la divinità degli ebrei, Il processo e la morte di Gesù rimangono unici nella storia dell'umanità. Solo Gesù è stato processato e condannato a morte perché diceva di essere Dio. Non solo. Ha sempre detto di essere Yahweh, la divinità, apparsa ai patriarchi e ai profeti, GV 8 e 24. Nessuno, ma proprio nessuno, ha mai detto questo. Al massimo, uno squilibrato può dire di essere Dio, ma mai Yahweh. 3. Lo Spirito Santo è una persona della triunità, GV 16, 7 e 15. Gesù afferma che lo Spirito Santo avrebbe convinto, guidato, parlato, udito, annunziato. Cose che una forza attiva non può fare, ma solo una persona. Quando si parla di persona, si vuole intendere che essa possiede quegli elementi costitutivi della personalità, che sono l'intelletto, o capacità di pensare, sensibilità, o capacità di sentire, e volizione, o capacità di volere. Queste caratteristiche, associate all'autodeterminazione e all'autocoscienza, costituiscono il carattere dello Spirito Santo, carattere di ognuna delle tre persone della Trinità. 4. Esiste una condanna eterna. MT 25, 46. Se la vita eterna è una esistenza senza fine con Dio, la morte eterna sarà una esistenza senza fine, ma lontana da Dio. La razza umana è incamminata dalla nascita verso la perdizione eterna. Non è Dio a mandare all'inferno le persone. Anzi, Egli proprio per evitare questo ha riconciliato a sé tutti gli uomini, nessuno escluso. Non vi sono predestinati alla perdizione. Mediante la morte di Cristo, 2 Cor 5, 19. I mormoni. Nel 1800. Joseph Smith. Joseph Smith nacque a Sharon, nel Vermont, Stati Uniti, il 23 settembre 1805. I suoi contemporanei lo definirono un ragazzo dalla morale non limpida, punto capace di sostenere le esagerazioni più enormi. 62 persone sue contemporanee hanno affermato che gli Smith erano noti per i loro progetti visionari e passavano molte ore del loro tempo a scavare in cerca di tesori. Padre e figlio erano considerati amorali e dediti ad abitudini viziose. Il 21 settembre 1823 Joseph Smith avrebbe ricevuto la visita di un essere angelico di nome Moroni, il quale gli disse che il Dio che lo mandava aveva un compito da affidargli. Altre apparizioni divine lo consacrarono profeta. 3 anni dopo, Moroni gli indicò un luogo dove scavare. Dallo scavo risultò il ritrovamento delle tavole d'oro, su cui, in geroglifici egiziani riformati, era scritto un nuovo Evangelo. Ma siccome Joseph non sapeva leggere, l'angelo provvide, guidandolo verso un paio di occhiali divini, attraverso le cui lenti egli poteva vedere la traduzione in inglese dei suddetti geroglifici. Allora egli trascrisse questa traduzione nell'opera Il libro di Mormon. Mormon era il padre di Moroni, l'angelo. Lo aiutarono nella trascrizione 3 segretari. Più tardi questi 3 testimoni caddero in disgrazia e furono scomunicati dagli stessi mormoni, sotto l'accusa di essere ladri, bugiardi, imbroglioni. Una parte della rivelazione è nient'altro che una copiatura della Bibbia. Il 27 giugno 1844 Joseph Smith fu barbaramente ucciso dalla folla mentre si trovava in prigione. 1. La salvezza si ottiene solo osservando i comandamenti. 2. La Bibbia non è sufficiente come guida autorevole nella fede e nella dottrina, ma il libro di Mormon è quello che autentica la validità degli scritti della parola di Dio. 3. Gesù è figlio di Adamo, Dio nei cieli, che si è unito carnalmente con la Vergine Maria. La dottrina mormonica è una mescolanza di concetti di cristianesimo e di mitologia greca Ma quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema, cioè sotto la maledizione, sotto l'ira di Dio. Se la buona notizia della Bibbia è vera, allora quello di Joseph Smith è falsa. 2. La scrittura è completa per il suo scopo. 2 T 3 e 16. Tutta la scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. se la Bibbia rende l'uomo di Dio completo o sufficiente, tutto il resto è inutile. 3. La fede è stata trasmessa ai santi una volta e per sempre. GD3. Mi sono trovato costretto a scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede, che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Al tempo degli Apostoli non vi erano ulteriori scritti che aiutassero i credenti a conoscere Dio. La New Age non ha avuto un inizio. Il New Age, nuova era, non è una setta, non ha una sede centrale, non ha un unico leader e non esiste una rivista ufficiale. Ecco quattro concetti fondamentali del suo credo. 1. Un nuovo umanesimo. Tutto ciò che propone il New Age ha l'obiettivo di esaltare l'uomo, dichiarandolo un Dio. Nell'uomo, dice il New Age, esistono capacità nascoste per la guarigione mentale e fisica, per la creazione di un nuovo ordine mondiale di pace sul pianeta e per il raggiungimento dello stato divino. 2. L'occultismo. Le pratiche innovative proposte dal New Age non hanno nulla di nuovo, esse provengono dal regno dell'occultismo e sono antiche come il mondo. 3. Il misticismo orientale. I concetti filosofici indiani che invadono l'Occidente si trovano in perfetta sintonia con i presupposti New Age come lo yoga, la meditazione trascendentale, la reincarnazione, il karma, lo yin. Essa prevede che, nel futuro, emergerà una nuova specie di esseri umani illuminati, che gestiranno la nuova era sul pianeta. Il New Age è semplicemente un insieme di idee che esercitano una grande attrazione sulla mente secolare. 1. Cristo è al centro del messaggio del Vangelo e non l'uomo. 1 Co. 2:2. Mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso. O i primi cristiani erano esaltati, oppure avevano capito la priorità del loro messaggio. Se erano esaltati, in quanto cristiani, siamo proprio dei miserabili. Se dicevano il vero, mettiamo Cristo al primo posto. 2. I tempi peggioreranno. Nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede. 1 Tito 4:1. Negli ultimi giorni verranno tempi difficili. 2 Timoteo 3:1. La Bibbia è realista. La malvagità aumenterà. Con questo non dobbiamo essere disperati né fare del terrorismo biblico, ma tenere presente che abbiamo sempre a che fare con persone che dell'Evangelo non ne vogliono sapere e che sopportano, forse, e che ci sopportano. 2 Timoteo 4:3. 3. L'uomo è incapace di conoscere la volontà di Dio. Isaia 55:8. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, dice Yahweh. L'unico modo per imparare e conoscere è ritenersi ignoranti. Chi pensa di essere in grado di conoscere Dio con la propria sapienza si illude, mentre chi è consapevole della propria ignoranza si lascerà istruire da Dio. Chi si dice savio diventa stolto. Da notare, non lo è, ma lo diventa nel momento che crede di saperne più di Dio. Scientology. Nel 1954 B. Chi l'ha fondata? L. Ron Hubbard. Dopo la morte di Hubbard nel 1986, il movimento è guidato da David Miscavige, presidente del consiglio d'amministrazione del Religious Technology Center, RTC. La storia di Scientology è strettamente legata a quella del suo fondatore L. Ron Hubbard, che, sin dagli anni 30, è stato uno scrittore di fantascienza ed altri generi letterari, western, avventure, romanzi sentimentali, fantasy, letteratura gialla. Esponenti della comunità psichiatrica e scientifica criticarono duramente le teorie di Hubbard e la loro mancanza di scientificità. Hubbard rese pubbliche le sue congetture relative alla natura spirituale dell'uomo, indipendente dal corpo e dalla mente. L'essere spirituale userebbe la mente e il corpo per agire nell'universo fisico che lo circonda. Hubbard, nel 1952, fondò la Hubbard Association of Scientologists, da cui nacque nel 1954 la Chiesa di Scientology. Nel corso degli anni 60 Hubbard venne considerato persona non gradita in Gran Bretagna. Nel 1978 fu condannato in contumacia per frode da un tribunale francese a 4 anni di carcere. L'uomo è un essere spirituale immortale. La sua esperienza si estende al di là di una singola esistenza. Le sue capacità sono illimitate, anche se non realizzate al presente, e quelle capacità possono essere realizzate. Egli è in grado non solo di risolvere i suoi problemi, di raggiungere i suoi obiettivi e di ottenere felicità duratura, ma anche di raggiungere nuovi e più elevati stati di consapevolezza e abilità. In Scientology a nessuno è richiesto di accettare qualcosa come credo o fede. Quello che è vero per te è ciò che hai osservato essere vero. Attraverso Scientology le persone di tutto il mondo stanno raggiungendo l'obiettivo a lungo ricercato di liberazione spirituale e libertà. Scientology è lo studio concernente lo spirito in relazione a se stesso, agli altri e a tutta la vita. 1. Esiste una falsa scienza. 1 Timoteo 6:20. O Timoteo, custodisci il deposito che ti è stato affidato, evitando i discorsi vani e profani e le argomentazioni contrastanti di quella che è falsamente chiamata scienza, professando la quale alcuni si sono sviati dalla fede. La grazia sia con te. Amen. Dobbiamo diffidare di ogni innovazione scientifica, che è anche contrastata seriamente perché allontana dalla vera fede, che invece non è mai in contraddizione alla vera scienza. 2. La verità non è soggettiva. Giovanni 14:6. Gesù disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Come la vita eterna è Gesù Cristo. 1 Giovanni 5:11. Così egli è anche la verità. Perciò, ritenere vera una cosa, solo perché si crede essere tale, è uno degli inganni della ragione umana. Uno può essere profondamente convinto di una qualsiasi cosa, senza per questo che sia necessariamente vera. Secoli addietro, gli uomini erano profondamente convinti che la Terra fosse piatta, o che il Sole girasse intorno alla Terra, ma le loro convinzioni non rendevano vera una cosa falsa. La religione ortodossa. Nel 1054. I primi cristiani furono perseguitati fino a quando Costantino nel 313 non dichiarò il cristianesimo, religione di Stato. Da quel momento in poi, il cristianesimo come religione si propagò in tutta l'Europa. Ogni chiesa locale era autonoma e responsabile della propria regione. Nel 1054 il vescovo di Roma interferì nelle vicende della chiesa di Costantinopoli. Questa, non accettando tale interferenza, venne scomunicata dalla chiesa di Roma. Da quel momento la chiesa di Costantinopoli seguì la propria strada, diventando fondatrice di quella che sarà la religione ortodossa. La religione ortodossa ha in comune, con la cattolica romana, la fede proclamata dai 7 grandi concili ecumenici, i riti, i sacramenti. Ammette il purgatorio, l'immacolata concezione, l'assunzione di Maria Vergine, ma ne condanna la definizione dogmatica della Chiesa romana. Non riconosce il primato di giurisdizione e l'infallibilità del Romano Pontefice, né ritiene necessaria l'unità esteriore della Chiesa, giudicando sufficiente che tutte le Chiese siano soggette a Cristo, capo indivisibile. 1. Essa ritiene di impersonare organicamente la stessa Chiesa che si formò alla venuta dello Spirito Santo a Gerusalemme. 2. La Bibbia e la tradizione trasmessa dalla Chiesa hanno la stessa autorità. 3. Chiedono ai santi di intercedere per loro. 4. Nell'Eucaristia il pane e il vino si trasformano nel corpo e nel sangue di Cristo. La religione ortodossa è l'espressione. Voi lasciato il comandamento di Dio, state attaccati alla tradizione degli uomini. Come benché è che sapete annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra. Punto annullando così la parola di Dio con la tradizione che vi siete tramandata. Anche Gesù aveva le sue abitudini religiose, Luke 4:16, 22 e 39, ma non erano in contrasto con il volere di Dio. Hai mai esaminato se hai delle forme religiose illecite? Chi preghi? A chi rivolgi il culto? 2. I santi sono uomini peccatori, salvati e viventi, 2 Corinzi 1:1. Alla Chiesa che è in Corinto con tutti i santi. Il termine santo vuol dire messo da parte. E tutti i credenti nati di nuovo sono appartati per Cristo. 3. Nell'Eucaristia il pane e il vino rimangono tali. Giovanni 6:47. Dopo la cena, Gesù parlò del frutto della vigna. MT 26:26-29. Se nel mangiare la carne di Cristo e bere il suo sangue si ricevesse vita eterna e il perdono dei peccati, perché chi compie tale rito chiede ancora perdono e non è certo della salvezza? Nell'Eucaristia, rendimento di grazie, il pane e il vino rimangono dunque dei simboli, e il credente li prende per ricordare la morte del suo Salvatore, come disse Gesù: fate questo in memoria di me, 1 Co. 11:24. La nascita e lo sviluppo del cristianesimo si sono svolti nel modo più naturale possibile. Secondo lo storico Luca, quelli che accettarono il messaggio del Vangelo erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Atti 2:42. Nessuno, quindi, pensava di dover un giorno abbandonare un tale tipo di vita. Le persone che seguivano gli insegnamenti degli apostoli venivano chiamate credenti o discepoli. Ma la situazione non poteva continuare sempre così, e poco dopo i discepoli di Cristo furono perseguitati. Nel libro degli Atti Luca fa notare che coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in luogo, annunziando la parola. Atti 11:9. Dal punto di vista storico questo è senz'altro uno dei testi più significativi nella vita della Chiesa. I discepoli, costretti a fuggire, ovunque andassero annunziavano il messaggio che essi stessi avevano ricevuto, formando così, spontaneamente, dei gruppi di persone che esprimevano la loro fede secondo l'insegnamento degli apostoli e di Cristo. Più tardi a queste persone, per il loro modo di vivere e di parlare, fu attribuito l'appellativo di cristiani. Un nome dispregiativo, perché il loro maestro era morto in croce come un malfattore. Questa parola venne usata per la prima volta nella città di Antiochia, dove Paolo e Barnaba avevano istruito i discepoli per un anno intero. Atti 11:26. Paolo chiamava questi gruppi ecclesia, cioè chiesa, il cui significato è radunati da. I primi cristiani, quindi, erano persone che vivevano nella società, ma nello stesso tempo erano distinti per il loro comportamento. A conferma di questo ecco un documento storico, scritto nel 130 d.C., e attribuito a Dioneto. I cristiani non si distinguono dagli altri per una determinata cittadinanza, lingua esotica o usanze segrete. I discepoli di Cristo non si ritirano a costruire le proprie città, né si esprimono con un accento o dialetto peculiare, non fanno vita isolata, né sono contrassegnati da caratteristiche ambigue. Il loro genere di vita non è improntato da visioni utopistiche o fughe mistiche, né seguono o promuovono una particolare ideologia umana. Come tutti gli uomini, abitano in città dove sono nati, adattandosi ai costumi locali nel vestire e nel mangiare, rivelando un comportamento esemplare che scaturisce da uno stile di vita paradossale. Rimangono nella loro patria, però come se fossero ospiti di passaggio. Partecipano alla vita pubblica come tutti i cittadini, ma subiscono e sopportano tutto come estranei. Si sposano come tutti, generano figli, però non praticano l'aborto. Sono molto ospitali, avendo in comune la stessa tavola della mensa, ma non lo stesso letto. Stanno nella carne, ma non vivono secondo la carne. Ubbidiscono e rispettano le leggi stabilite, ma con la propria vita le sorpassano. Amano tutti, e di conseguenza sono perseguitati. Mancano di tutto quello che il mondo ritiene importante ed essenziale, però abbondano in tutto. Sono disonorati, ma nello stesso disonore sono glorificati. Tutti parlano male di loro, però non si può negare che siano integri e puri. Sono vituperati, però benedicono. Sono insultati, ma rispondono con amore. Fanno del bene, però sono puniti come criminali. Quando sono condannati a morire, si rallegrano come se avessero appena ricevuto il dono della vita. Dagli ebrei sono oltraggiati come stranieri e dai greci perseguitati. Coloro che li odiano non riescono a motivare la loro avversione e ripugnanza. Per dirla in breve, come l'anima è nel corpo, i cristiani sono nel mondo. L'anima è diffusa per tutte le membra del corpo, anche i cristiani sono sparsi per tutte le città del mondo. L'anima risiede nel corpo, ma non è del corpo, così i cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. Questa descrizione del comportamento dei primi cristiani merita di essere tenuta in considerazione, specialmente oggi, che vi è confusione per quanto riguarda cosa significa essere cristiani. Abbiamo appreso da Luca che la Chiesa fu perseguitata poco dopo la sua nascita. Ciò non stupì certamente i discepoli di Cristo, sia perché il loro maestro li aveva avvertiti, sia perché gli apostoli continuavano a ricordare ai seguaci di Cristo che quelli che vogliono vivere piamente in Cristo saranno perseguitati. 2 Tim 3:12. Dobbiamo notare che la persecuzione dei cristiani fu, all'inizio, religiosa da parte dei giudei. Poi divenne anche politica da parte dello Stato di Roma. Queste persecuzioni al principio si svolsero in modo locale e sporadico, ma esse raggiunsero il culmine sotto gli imperatori Nerone, verso il 60, Decio, Traiano, verso il 250, Valeriano nel 257 e Diocleziano nel 300. L'era della persecuzione è molto importante perché ci illumina sul problema perenne delle relazioni tra Chiesa e Stato. Il cristianesimo richiedeva la lealtà assoluta dei suoi seguaci in questioni morali e spirituali. Il cristiano non doveva più obbedire allo Stato quando questo gli chiedeva di venir meno all'obbligo di fedeltà morale e spirituale a Dio. Il problema dell'obbedienza a Cristo o a Cesare non ha mai termine, ma solo dove l'individuo ha la libertà di avere interessi personali distinti da quelli pubblici può esservi libertà di religione. L'epoca eroica del cristianesimo finì nel 313, quando Costantino emanò un editto, il quale concedeva la libertà di culto non solo al cristianesimo, ma a tutte le altre religioni. Da questa data in poi, il cristianesimo pian piano divenne una religione privilegiata e addirittura la sola religione ammessa nello Stato. Questo avvenne nel 380, sotto l'imperatore Teodosio. Da questo periodo in poi la Chiesa andò incontro al paganesimo, poiché, a poco, accettò numerosi elementi della religione pagana, più o meno trasformandoli. Costantino estese al clero i privilegi di cui godevano i sacerdoti pagani, stabilì ufficialmente la domenica come giorno festivo, ma lo designò come giorno del sole, fatto che contribuirà certamente a fissare la data della nascita di Cristo il 25 dicembre, giorno della rinascita del sole. Così per i pagani del IV secolo il passaggio al cristianesimo non presentò grande difficoltà, né dal punto di vista religioso né dal punto di vista etico. Perciò, fin dal tempo di Costantino affluirono grandi schiere di pagani nella Chiesa, dando luogo a delle inevitabili eresie. IPADRIDELLACHIESA. Abbiamo considerato che i primi cristiani dispersi andarono ovunque, testimoniando della loro fede. Cosa normale era per loro il ritrovarsi insieme, e in questo modo si formava una comunità, cioè una chiesa locale. Ogni chiesa era governata da degli anziani. Le idee dei primi cristiani in merito a Cristo e al suo regno erano molto semplici, ma sorsero già al tempo degli apostoli, dei falsi dottori e dei falsi profeti. Così Dio diede alla chiesa del secondo e terzo secolo uomini capaci, dei veri teologi, Giustino Martire, Clemente Alessandrino, Origene e Tertulliano, tanto per citarne alcuni. Questi credenti diventarono per i primi cristiani un punto di riferimento e da semplici persone diventarono dei personaggi. Finché lo Spirito governò la Chiesa, le cariche nelle singole comunità avevano scarso significato, ma estintasi la funzione dei dotati di Spirito, l'ordinamento nelle singole comunità acquistò maggior significato e più solida forma. Senza rendersene conto, i cristiani acquistarono l'idea della concezione gerarchica della Chiesa. E così diventò un diritto che uno degli anziani dirigesse la comunità come monarca a vita. Solo a questi fu riservato il titolo di vescovo. Gli anziani governavano la Chiesa, ma solo sotto l'autorità del vescovo. In questo modo la storia ci ricorda che gli errori dottrinali sono spesso partiti da piccole deviazioni dalla verità. Ricordiamo grandi personalità vescovo: Atanasio, vescovo di Alessandria; Ambrogio, vescovo di Milano; Agostino, vescovo di Ippona. I vescovi delle principali città, quali Gerusalemme, Alessandria, Efeso, Roma, Antiochia, Cartagine, Costantinopoli, godevano di una autorità proporzionata all'importanza delle loro sedi. Ma nessuno aspirava al grado supremo della Chiesa. l'autorità suprema della Chiesa era rappresentata dai concili, cioè da tutti i vescovi riuniti assieme. Ma una serie di circostanze storiche condussero pian piano il vescovo di Roma a diventare il vescovo dei vescovi, cioè il Papa. Ecco alcuni cenni. Quinto Tascio Cipriano, che visse circa nel 210, fu uno dei primi sostenitori dell'autorità dei vescovi e dell'importanza della Chiesa di Roma. Leone Magno, 440-461 vescovo di Roma, fu il primo a formulare la teoria del primato papale, assumendo per sé il titolo di Vicarius Christi. Egli fu il primo a esercitare il potere direttivo sull'intera Chiesa di Occidente. Quando nell'Ottocento Carlo Magno fu incoronato imperatore dal vescovo di Roma, Leone III, questi diventò l'arbitro supremo della politica, creava i re e gli imperatori e poteva anche deporli. Al culmine del Medioevo, il papato aveva raggiunto una incomparabile pienezza di potenza. Secondo un'espressione di Innocenzo III, il Papa è sì più piccolo di Dio, ma è più grande dell'uomo. A questo punto possiamo notare tre accentuate caratteristiche della religione cattolica romana, la quale, con l'andare del tempo, acquistò sempre più le caratteristiche di oggi, perché, è bene ricordarlo, il cattolicesimo romano attuale è risultato di un lungo e lento processo durato secoli. 1. La gerarchia. 2. Il sacerdozio. 3. La riviviscenza di abitudini pagane sotto un travestimento cristiano. SCISSIONICONLACHIESADORINTE. Quando Costantino ne... Durante i primi 8 secoli, ogni chiesa locale era autonoma e responsabile nella propria regione. Il Concilio Ecumenico, nel suo terzo canone, aveva definito che il vescovo di Costantinopoli dovesse avere il primato d'onore dopo il vescovo di Roma, poiché Costantinopoli era la nuova Roma. La Chiesa quindi riconosceva unicamente un primato d'onore e di anzianità, ma non d'autorità sul resto dei vescovi di una Chiesa. Ma Roma aveva ambizioni imperialistiche. Fu così che, nel IX secolo, Papa Nicola I, 858-867, cercò di intervenire in un affare puramente interno della Chiesa di Costantinopoli. Da allora, qualsiasi ragione fu valida per litigare. Si litigò intorno alla data della celebrazione della Pasqua, si litigò intorno al celibato. In Oriente era permesso il matrimonio al clero secolare di grado inferiore al vescovo, in Occidente esso veniva proibito a tutto il clero. Sorsero dispute sull'opportunità di portare la barba. In Occidente ci si poteva radere, in Oriente si doveva portarla. Ma la goccia che fece traboccare il vaso si verificò nel 1054. Michele Cerulario, vescovo di Costantinopoli dal 1053 al 1058, aveva condannato la Chiesa d'Occidente per l'uso del pane non lievitato nell'Eucaristia. Per porre termine alla disputa, Papa Leone IX inviò in Oriente il cardinale Umberto con altri due legati per discutere la cosa. Ma le divergenze aumentavano. Così, il 16 giugno 1054, i legati, cioè i delegati, i rappresentanti del Papa, posero sull'altare maggiore della cattedrale di Santa Sofia un decreto di scomunica contro il patriarca e i suoi seguaci. L'unità della religione cattolica romana veniva così infranta dal primo grande scisma. Da quel momento, la religione romana e la religione ortodossa seguirono ciascuna la propria strada. TN, TA, T, V, D, I, R, I, F, O, R, M, A, I, N, T e R, N, A. La religione cattolica romana, non avendo più rivali in Occidente nel campo religioso, cominciò a manifestare il suo vero volto. I costumi del clero diventarono molto bassi. Amavano mangiare e bere. Alcuni papi ebbero figli, decretavano eresie, amavano il denaro. I papi dominavano nel vero senso della parola intere popolazioni dell'Occidente, ma il dominio più grave e pericoloso è stato senz'altro quello spirituale. Non a caso, dopo la scissione da Costantinopoli, stabilirono il dogma del celibato dei preti. 1079. In seguito, quando sorsero dei contestatori contro la corruzione del clero, stabilirono la Santa Inquisizione.

Dopo che Lutero scrisse le 95 tesi, Roma gli chiese di ritrarre le proprie idee. Egli accettò degli incontri, delle dispute, sostenendo però che l'unica autorità sarebbe stata non il Papa, né la Chiesa, ma la parola di Dio. Fu solo nel 1520 che egli colpì Roma in modo definitivo quando, pubblicando 3 libretti, egli attaccò la gerarchia, i sacramenti e la teologia di Roma. I termini erano posti chiaramente. Roma doveva decidere. Fu così che, nel mese di giugno del 1520, Leone X emanò una bolla di scomunica che Lutero bruciò alcuni mesi più tardi. Nella primavera del 1521, Lutero fu invitato alla dieta imperiale di Worms. La dieta era una riunione. Gli fu chiesto di abiurare, ma egli dichiarò, solo, se sono convinto mediante la scrittura e se non vado contro coscienza. Dio mi aiuti. Amen. Dal 1522 al 1530, periodo dedicato all'organizzazione. In questo periodo, Lutero fu rapito e nascosto in un castello da amici, e, in questo posto tranquillo, egli tradusse la Bibbia nella sua lingua corrente. Nel 1525 si sposò con una suora, come prova della sua sottomissione alla parola di Dio e non alla Chiesa. Nel 1526, alla dieta di Spira, i principi seguaci di Lutero poterono ottenere che, fino a quando non fosse convocato un concilio, cioè l'assemblea dei vescovi, il principe di ogni stato era libero di esprimere la fede che riteneva giusta. Nel 1529, in una seconda dieta a Spira, si annullò la precedente e si dichiarò unica fede legalmente riconosciuta, la cattolica romana. Ma i principi seguaci di Lutero, 14 città e 5 stati regionali, elevarono la seguente protesta. Noi dichiariamo solennemente dinanzi a Dio, nostro unico Creatore, Redentore, Salvatore, il quale un giorno ci chiamerà in giudizio e davanti a tutti gli uomini, che non siamo in alcun modo disposti ad accettare un'imposizione contraria a Dio, alla sua parola, alla nostra coscienza e alla salvezza delle anime nostre. Da quel momento furono perciò chiamati protestanti. Questa fu l'origine onorata di tale nome. Nel 1530 Melantone, il teologo, presentò alla dieta omonima la Confessione di Augusta, approvata da Lutero, la quale divenne il credo ufficiale della Chiesa luterana e riformata. Dal 1531 al 1555, con la pace di Augusta, il luteranesimo sotto la guida di Lutero e, in seguito di Melantone, affrontò un'epoca di conflitti con Roma. Alla fine, il luteranesimo era su di un piano di uguaglianza legale con il cattolicesimo romano. Ricordiamo 2 grandi personalità che aiutarono la riforma. Ulrico Zwingli, 1484-1531. Giovanni Calvino, 1509-1564. LATRADIZIONEEL, INFALLIBILITADELPAPA. Dopo il periodo della Riforma, Roma stabilì nuovi dogmi, come risultato degli eventi storici che li avevano preceduti. A noi basta ricordarne 2. 1. La tradizione ha la stessa autorità della Scrittura, 1545. 2. L'infallibilità del Papa, 1870. La tradizione, con il termine tradizione, si intende la trasmissione, la consegna, dell'insegnamento non contenuto nelle Sacre Scritture, espresso oralmente dagli Apostoli, GV 21 e 25, 2 T 2 e un quarto, 2 T 1, 13, 14. Il Concilio di Trento, 1545-1563, definì in questo modo la tradizione. Il complesso delle verità rivelate, appartenenti alla fede e alla morale, non contenute nella Sacra Scrittura, ma trasmesse da Dio alla Chiesa oralmente. Esiste, così, una tradizione orale e scritta che la dottrina cattolica romana pone ufficialmente sullo stesso piano della rivelazione scritturale, attribuendole la stessa autorità. Di fatto, tuttavia, la tradizione è elevata al di sopra delle scritture, poiché è considerata normativa anche nell'interpretazione dei sacri testi e nell'elaborazione del pensiero religioso e culturale. I teologi cattolici distinguono diverse espressioni della tradizione, tradizione divino-apostolica e tradizione ecclesiastica, tradizione dogmatica e tradizione morale. Tradizione costitutiva, se afferma una verità non presente nelle scritture, e tradizione interpretativa, se contribuisce a chiarire un testo oscuro delle scritture. Tradizione temporale, con norme limitate ad un tempo, e tradizione perpetua, cioè scritti, definizioni di papi o di concili, opere artistiche e consuetudini cerimoniali e culturali. L'infallibilità del Papa. In un librino Che cos è l'ortodossia, cioè una breve spiegazione dell'essenza dell'ortodossia e delle differenze fra le chiese, a cura di Pietro Abbozzis, in una parte esprimente il pensiero degli ortodossi, si legge: in nessun punto del Nuovo Testamento è menzionato il fatto che Cristo abbia donato privilegi o diritti particolari a qualcuno. La Chiesa di Roma si è talmente allontanata dalla verità da proclamare il Vescovo di Roma come infallibile. La Chiesa ortodossa orientale non riconosce alcuna persona infallibile sulla terra, ad eccezione del Figlio di Dio. Se ci si pone in una prospettiva storica, come si può accettare la dottrina dell'infallibilità o del primato quando tanti papi sono stati anatemizzati o deposti da concili di vescovi? E, noto che nel IV secolo, Papa Liberio aderì all'eresia ariana e che nel V secolo, Papa Zamino approvò una confessione di fede eretica che negava il peccato originale. Nel VI secolo, Papa Virgilio fu condannato dal V concilio per delle opinioni errate. Nel VII secolo, Papa Onorio cadde nell'eresia monoteista e fu condannato dal VI concilio ecumenico, ed i papi che gli successero riconobbero ed accettarono questa condanna. Leggiamo ancora: il Papa, ignorando il fatto che il capo della Chiesa è soltanto colui che si è offerto per essa, volle un'autorità suprema, pretendeva in pari tempo di essere il successore di Pietro ed il vicario di Cristo sulla terra. Questo insegnamento è assolutamente contrario allo spirito delle scritture e dei padri della Chiesa. Il suo solo fondamento è l'aspirazione egoistica ed assolutistica del Papa di divenire capo e despota, giudice e sovrano di tutto l'universo. CONCLUSIONE. Uno studio accurato degli scritti dei riformatori ci porta a concludere che essi pervennero alla convinzione della giustificazione per fede, come del resto le altre grandi verità, mediante lo studio della scrittura. La ragione teologica della Riforma risiede nel desiderio di risalire alle fonti classiche della fede cristiana, la Bibbia, per controbattere le eresie di Roma. I riformatori volevano dar vita ad una teologia in completa armonia col Nuovo Testamento, convinti che questo non si potesse realizzare se si fosse continuato a dare autorità inappellabile a Roma invece che alla Bibbia. Anche se Lutero rimarrà per sempre un pilastro nella storia della cristianità, dobbiamo pensare a lui solo come a uno strumento Nuovo Testamento nelle mani di Dio, perché in fondo egli non scoprì nulla di particolare riguardo alle verità fondamentali del cristianesimo, anzi egli condivise la fede di coloro che lo avevano preceduto, Agostino, Tertulliano. Se ha un merito, e questo inevitabilmente deve averlo, è stato quello di attaccare il cattolicesimo romano non dal lato morale, ma dalle sue fondamenta, cioè l'autorità di Roma. Il Papa, scomunicando Lutero, ha rivelato il suo volto eretico e, da quel momento in poi, tutti coloro che non condividevano il potere papale si sono uniti formando un nuovo movimento religioso, chiamato, verso la soglia del 2000, Roma ha chiamato i protestanti fratelli separati e ha chiesto loro di entrare a far parte della vera Chiesa. Ma questo non è possibile, a meno che essa ammetta di non essere la vera Chiesa. Fa parte della Chiesa, quella vera, solo chi ha realizzato la nuova nascita ponendo fede in Cristo, quale unico Signore da servire, da adorare e da pregare. Il cattolicesimo romano, in un certo senso, è una religione unica, diversa da tutte le altre, perché come religione essa ha assorbito, accettato, condiviso, copiato tante pratiche espresse in tutte le altre religioni. Vediamo qui di seguito alcuni esempi. A. Induismo ha 300 milioni di dei. Il cattolicesimo romano ha almeno un santo per ogni città. B. Ebraismo, una religione centrata sul sacerdozio. Da questa religione Roma ha copiato pari pari il sacerdozio. C. Buddismo esalta i digiuni e le rinunce. Pure il cattolicesimo ha questo principio. D. Confucianesimo e praticato il culto agli antenati. Il cattolicesimo romano rende il culto agli antenati santi. E. Shintoismo, l'imperatore è Dio. Il Papa è chiamato Santo Padre ed è infallibile, solo Dio può esserlo. Dopo la nascita di Cristo, li abbiamo esaminati. 1. Il loro capo spirituale si ritiene il capo dell'intera cristianità. 2. Vi è un sacerdozio avente funzione di intermediario fra Dio e gli uomini. 3. Si diventa figli di Dio mediante il battesimo. 4. La salvezza si ottiene mediante l'osservanza dei comandamenti. 5. Nell'Eucaristia il pane e il vino si trasformano nel corpo e nel sangue di Cristo. Il cattolicesimo romano è un misto di ebraismo, di cristianesimo e di tante altre religioni. Paolo, parlando di Cristo, dice: egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Co 1:18. Paolo ha sempre dichiarato, nelle sue lettere, che il capo della Chiesa era Cristo, e questo, quando Pietro era ancora vivo. Non vi è nessuna indicazione, sia nei Vangeli che nelle lettere, che Pietro fosse il capo della cristianità. Anzi, quando Tertullo volle accusare Paolo, lo indicò come il capo della setta dei Nazareni, cioè dei cristiani. Nel Concilio di Gerusalemme non fu Pietro ad avere l'ultima parola, ma Giacomo. Nel Collegio dei Dodici Pietro non occupava il primo posto, perché nonostante i discepoli si conoscessero bene fra loro, e anche Gesù avesse detto a Pietro: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, i dodici chiesero a Gesù chi fosse il maggiore fra loro, Marco 9:33-34. Anche se era una delle tre colonne del cristianesimo, nonostante questo il primo concilio della cristianità non è stato presieduto da Pietro, Atti 15:13. Che Pietro fosse solo un semplice apostolo è dimostrato dal fatto che venisse mandato dagli apostoli, Atti 8:14, e che, a nominare il dodicesimo apostolo in sostituzione di Giuda, non fosse lui, Atti 1:26. Nella sua prima lettera, egli non si attribuisce nessuna superiorità e lo dimostra, affermando semplicemente: punto io, che sono anziano con loro. 1 Pt 5:1. 2. Vi è un solo mediatore, Gesù Cristo. 1 Tit 2:5. 5. È un solo Dio e anche un solo mediatore, fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Ogni altro intermediario tra Dio e gli uomini è dal diavolo. 3. Figli di Dio si diventa per fede. G. 1:12. A tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli, cioè, che credono nel suo nome. Il battesimo o ogni altra pratica non produce e non comunica nessun risultato spirituale. 4. La salvezza è per grazia mediante la fede. Ro 3:28. Riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. La fede in Cristo quale unico Salvatore è il solo mezzo per essere salvati. 5. Il sacrificio di Cristo non è più ripetibile, Ebi 10:12. Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccanti col testamento primo e per sempre, si è seduto alla destra di Dio. Basta accettare ciò che è scritto. Differenze di fedi e di fede. Abbiamo considerato alcune delle maggiori religioni nel mondo, abbiamo notato che alcune si sono sviluppate sulla base di superstizioni umane, mentre altre hanno avuto un fondatore. Se diamo uno sguardo globale a tutte le religioni, possiamo parlare di differenze di fedi, perché ogni religione ha un suo proprio fondatore. Fanno eccezione il cattolicesimo romano, gli ortodossi e il protestantesimo, perché essi dichiarano di avere come origine fondatore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ma dall'esame da noi fatto, risulta che sia il cattolicesimo sia gli ortodossi, con il passare del tempo, hanno deviato dalla verità. E il protestantesimo? Da secoli l'Italia ospita il papato e perciò dovrebbe risultare privilegiata sotto l'aspetto religioso. Per un singolare paradosso, invece, è un paese periferico ed emarginato rispetto alle grandi esperienze religiose del mondo moderno. All'italiano medio, abituato fin dall'infanzia a identificare il cattolicesimo romano Con la vera Chiesa in assoluto, tutto ciò che non è cattolico romano appare secondario. Il mondo protestante gli sembra una grande nebulosa, in cui si individuano pochi punti, più o meno chiari. La pluralità delle confessioni evangeliche è spesso oggetto di un giudizio negativo. Dal punto di vista cattolico, il protestantesimo appare quasi sempre come simbolo di quella frattura che ha forse compromesso la stabilità della vera Chiesa e infranto l'unità. Dinanzi alla parvenza monolitica del mondo romano, raccolto intorno al magistero dei suoi pontefici, starebbe un mondo protestante spezzettato e discorde. A questo discorso i protestanti rispondono che la varietà delle posizioni di fede vissute dagli evangelici non è motivo di debolezza, anzi, è sintomo di vitalità e di coraggio. Le differenti posizioni teologiche e pratiche, organizzative e strutturali che le diverse chiese evangeliche presentano alla prima impressione disorientano, ma spesso sono più apparenti che reali. Toccano cioè aspetti periferici della comunità di fede. In ultima analisi, il protestantesimo è più unito di quanto non sembri e non lo si giudichi. L'impostazione della fede a tratti comuni indiscussi. A. L'autorità della Scrittura. Il richiamo alla parola di Dio non manca nel cattolicesimo o nelle chiese ortodosse, ma trova la sua accentuazione nel protestantesimo, perché ad essa è stata attribuita la massima autorità. B. La cristologia. La teologia è sempre riferita a Gesù Cristo. Per un evangelico non ci è altra bussola all'infuori del messaggio e della persona di Gesù Cristo. C. La responsabilità di ogni crede Nuovo Testamento è: non è la Chiesa che può garantire la salvezza, ma l'incontro del credente con Cristo. D. Il rapporto tra Chiesa e ST Antico Testamento o. La Chiesa dialoga con la realtà storica, predica, annunzia, testimonia del messaggio evangelico, però non crea la società civile, non la cristianizza. Il punto quindi che possiamo sottolineare del protestantesimo è questo: mentre per le altre religioni noi possiamo parlare di differenza di fedi, nell'arcipelago protestante noi parliamo di differenza di fede, dato che tutti i protestanti si rifanno ad un'unica fonte. Allora, perché i protestanti non interpretano la Bibbia nello stesso modo? Interpretare correttamente il pensiero di Dio, seguire la verità, è certamente il compito più difficile per un cristiano, poiché si è condizionati dalla cultura, dalla conoscenza e dalla maturità, sia umana, sia spirituale. In questo modo, comprendiamo perché i cristiani hanno comportamenti diversi in America. Essendoci il problema dell'alcolismo, alla cena del Signore prendono del succo d'uva, perché altri pongono più enfasi su di una verità che su un'altra. Inoltre, alla domanda perché vi sono tante denominazioni nel campo del protestantesimo, bisogna affermare con forza che è giusto e normale che vi siano tante espressioni di fede nell'unico Dio. L'Evangelo è un messaggio universale, perciò i suoi principi sono destinati ad essere adattati ad ogni cultura. Chi non è contro di noi è per noi. Leggiamo nell'Evangelo di Marco il seguente episodio, 9:38-50. Giovanni gli disse: Maestro, noi abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e che non ci segue. E glielo abbiamo vietato perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo vietate, perché non ci è nessuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e subito dopo possa parlar male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. Giovanni era discepolo di Gesù, quindi seguiva la verità. Vedendo che una persona predicava Gesù per cacciare i demoni, senza essere uno fra quelli che lo seguivano, glielo proibì. Gesù lo rimproverò, perché chi non era contro di loro riteneva il loro operato a suo favore, anche se non camminava con loro. Gesù colse l'occasione, in questo episodio, per mettere in guardia i suoi seguaci dal bloccare l'operato di coloro che credono in lui e, anzi, comandò ad ogni cristiano di guardarsi dal fare qualsiasi cosa che potesse essere di danno al suo prossimo. I cristiani sono il sale della terra, cioè coloro che danno sapore alla vita. coloro che producono la sete di Dio, coloro che sono una fonte di benedizione. Ma se non producono questi risultati, allora essi vengono a mancare nel loro principale compito. Gesù terminò il suo insegnamento con l'ordine: state in pace gli uni con gli altri. Chi sono gli altri? Sono coloro che hanno fede in Gesù, ma lo seguono in un modo diverso da noi. Il principale compito del cristiano non è quindi quello di cercare di far cambiare denominazione ad un altro credente, ma di predicare Cristo, quale unico Signore e Salvatore al quale rivolgere preghiere. Ricordiamo un'affermazione fatta a Manila, nelle Filippine, in occasione del secondo congresso internazionale sull'evangelizzazione del mondo, tenutosi tra l'11 e 20 luglio 1989. Vi sono stati e vi sono ancora molti ostacoli all'evangelizzazione. Il più grande ostacolo non è rappresentato però dall'attività di Satana, dalla chiusura di certe nazioni, dalla mancanza di mezzi finanziari, dal propagarsi di sette o dal progresso dell'Islam, bensì dalle barriere che i credenti pongono di continuo sul cammino dei propri fratelli: maldicenza, gelosia, invidia e pregiudizi quando non si tratta di peggio. Gesù insegnò: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Nessun programma evangelistico sarà in grado di rivelare chi è Dio quanto il nostro amore per gli altri cristiani. Alcune chiese protestanti. Esaminare ogni denominazione nel campo del protestantesimo richiederebbe una mole di lavoro non indifferente. Perciò ci limiteremo ad esaminarne alcune o almeno quelle più conosciute o numerose. Esse sono la luterana, le riformate, l'anglicana, la metodista, la battista, l'avventista, la pentecostale, le chiese di Cristo, le chiese dei fratelli. Per ogni denominazione faremo un piccolo accenno alle dottrine e alla struttura. Gli appunti che presento sono presi in gran parte dal libro L'altra chiesa in Italia, gli evangelici. Autori: Giorgio Bouchard e Renzo Turinetto. Editrice Claudiana. La Chiesa Luterana. Storicamente la Chiesa Luterana è stata la prima Chiesa evangelica. Dottrina. Anzitutto, riconosce il primato assoluto della dottrina. Ciò non significa che nel luteranesimo imperi un angusto dogmatismo, ma che alcuni punti debbono essere ben chiari. Essi sono: a) l'autorità decisiva della Scrittura, b) la giustificazione per fede, c) la nozione evangelica di Chiesa, d) l'equilibrio tra predicazione e sacramenti. L'ultimo punto caratterizza i luterani rispetto ai riformati, metodisti e battisti. Il luteranesimo si studia di mantenere la parità tra questi due contrassegni della Chiesa. L'interpretazione luterana della Cena del Signore non tende, come altre, a connotarla come puro simbolo, perché Lutero ha affermato la presenza del corpo di Cristo nei due elementi del pane e del vino, mentre vengono ricevuti dai credenti con sostanziazione. Per l'organizzazione e la liturgia regna invece una certa libertà. La base del culto luterano è la messa medievale, semplificata, depurata degli elementi non evangelici e tradotta in lingua moderna. Naturalmente, il sermone ha un posto centrale e il canto degli inni è curato in modo particolare. In qualche regione il culto è ancor più scarno, avvicinandosi a quello calvinista. Altrove esse è sviluppato viceversa un certo tradizionalismo, simile al ritualismo inglese. La struttura ecclesiastica è stata all'inizio molto conservatrice. In Svezia sono rimasti i vescovi. In Germania il loro posto è stato preso dai principi, le chiese riformate. Le chiese riformate costituiscono una famiglia confessionale riconducibile a quattro tipi. Il più antico è la chiesa zwingliana, prende il nome da Ulrico Zwingli, che è nata indipendente e poi diventata sostanzialmente calvinista. Il secondo comprende le chiese riformate vere e proprie, risultato della predicazione calvinista sul continente europeo. Il terzo è dato dalle chiese presbiteriane, che sono il risultato della stessa predicazione nel mondo anglosassone. Infine, il quarto tipo, congregazionalista, si differenzia dalle altre per motivi di organizzazione. La teologia riformata corrisponde a quella luterana, salvo alcune accentuazioni particolari. A. L'autorità della Bibbia è proclamata in modo assoluto. B. Per quanto riguarda la cena del Signore, le chiese riformate affermano la presenza spirituale di Cristo. Il Signore è presente in modo diretto, mediante lo Spirito. C. Le dottrine bibliche della sovranità di Dio e della elezione, o predestinazione, sono di solito sottolineate con forza. La struttura è quella stabilita da Calvino a Ginevra e perfezionata in Francia. La chiesa locale è curata da pastori, dottori di fatto fusi nella stessa persona, anziani e diaconi. Tutti gli incarichi sono elettivi e vedono la prevalenza assoluta dei laici. In pratica, però, i pastori godono di larghissima autorità. La scala delle assemblee va dall'assemblea di chiesa fino al sinodo generale, permettendo un efficace equilibrio di libertà e autorità. Il culto è caratteristico per la sua semplicità, sebbene qualche volta lasci l'impressione di un carattere un po' freddo e scolastico. La lettura e la predicazione della parola di Dio hanno un posto centrale, accompagnate dalla confessione dei peccati, il canto degli inni e le preghiere. Non c'è che altare, ma, di solito, un pulpito e un tavolo per la cena del Signore, non paramenti ecclesiastici, ma solo la ben nota toga nera, oggi anch'essa in discussione perché secondo molti finisce per conferire un carattere sacerdotale alla persona del predicatore. La Chiesa anglicana. La matrice della Chiesa anglicana si trova in Inghilterra e, più precisamente, nell'atteggiamento preso da questa nazione davanti ai problemi della riforma della Chiesa nel secolo XVI. Per la Chiesa anglicana la Bibbia ha un'importanza pari a quella che ha per le altre chiese protestanti. Ma quest'importanza si concentra soprattutto nella formazione morale, nella pietà individuale e nell'impronta biblica della liturgia. La Chiesa anglicana non ha una confessione di fede ufficiale da cui si possano dedurre con chiarezza le sue posizioni teologiche. Un testo che gode di autorità è il Prayer Book, il libro di preghiera, è una tipica caratteristica anglicana che un testo liturgico assuma autorità dottrinale. In passato si usava dire che la Chiesa anglicana si divideva in alta e bassa, cioè in un partito evangelico e uno. In pratica, oggi, le due tendenze si equilibrano e tendono a fondersi in un tutto originale, per quanto non sempre dotato di quella chiarezza di pensiero che sarebbe opportuno avere. In Inghilterra, la Chiesa anglicana è Chiesa di Stato. Ciò significa che il governo nomina tutti i vescovi e buona parte dell'alto clero. Inoltre, ogni mutamento importante è sottoposto all'approvazione del Parlamento. In pratica, però, la Chiesa è riuscita a ottenere una crescente autonomia e l'anglo-cattolicesimo non le ha impedito di democratizzarsi formalmente. Dal 1920 esiste l'Assemblea della Chiesa, formata a parità da clero e laici, che ha, su scala ridotta, funzioni simili a quelle di un sinodo generale. Dal 1919 ogni parrocchia ha il suo consiglio di Chiesa. Ogni diocesi ha la sua assemblea, detta conferenza diocesana, formata per metà da laici. Ognuna delle 20 chiese nazionali anglicane è perfettamente autonoma. L'arcivescovo di Canterbury gode di un'autorità puramente morale, sebbene notevole. L'unità delle chiese anglicane è espressa dalle decennali conferenze di Lambeth che, dal 1867, riuniscono tutti i vescovi. Le decisioni di questa assemblea non hanno carattere vincolante per nessuno, ma esercitano lo stesso una vasta influenza sull'orientamento delle varie chiese anche fuori dell'ambito anglicano. La Chiesa metodista. Il metodismo è sorto poco più di due secoli fa, ma si è sviluppato con un ritmo tale da presentarsi oggi come una delle più grosse chiese protestanti. La teologia del metodismo corrisponde a quella della Chiesa anglicana, semplificata e liberata dei suoi elementi cattolici e delle punte calviniste. Ne risulta che la teologia metodista è affine a quella protestante media, senza allinearsi con una particolare tradizione confessionale. A. Il culto corrisponde a quello anglicano, molto snellito e arricchito di inni caldi e commoventi. B. La cena del Signore è presa in ginocchio ed è circondata dal massimo rispetto. La presenza di Cristo è intesa in senso spirituale. C. Il metodismo non ha posto l'accento né sulle dottrine né sul culto, ma sulla vita pratica e sulle esperienze religiose. La prima, essenziale, è la conversione, nuova nascita. D. Se la conversione era il tema costante della predicazione all'aperto, la santificazione era oggetto della massima cura nella vita delle classi e società metodiste. E, stato detto che l'essenza del metodismo è una religione sperimentale, che conduce alla santità secondo le scritture. Mentre le altre denominazioni evangeliche hanno conservato la parrocchia, o chiesa locale, come unità ecclesiastica di base, il metodismo ha ricevuto una struttura più duttile e più efficace. Alla base di questa struttura stava la classe 5-10 persone guidate da un laico leader. Non si era ammessi alla classe senza aver affrontato un esame rigoroso e senza aver preso impegni precisi. Frequentare ogni settimana le riunioni di classe, ascoltare una predicazione ogni giorno, partecipare con regolarità alla Santa Cena, evitare il fumo, le bevande alcoliche, la menzogna, la maldicenza e l'odio, praticare l'austerità e l'elemosina. Diverse classi formavano una società che corrisponde grossomodo ad una chiesa locale, e le società di una certa zona formavano un circondario, circuit, affidato alla responsabilità di uno o più predicatori. Una serie di circuiti formava un distretto e tutti i distretti di una nazione stavano sotto l'autorità di una conferenza generale, l'equivalente di un sinodo generale per le chiese riformate. La Chiesa Battista. Il nome di Battisti è stato agli esordi un nomignolo derisorio allusivo all'aspetto più appariscente della loro dottrina, il battesimo de... In realtà il carattere specifico del battesimo consiste nella concezione della Chiesa, che esso vuole formata da soli credenti convinti, raccolti in comunità autonome e del tutto separate dallo Stato. A. La Chiesa deve essere costituita solo da credenti convinti, questo concetto base espresso dal battesimo degli adulti, battesimo dei credenti, considerato soprattutto come testimonianza di fede ma anche come segno della grazia di Dio. B. Tutti i credenti sono uguali nella Chiesa, non C. È differenza tra pastori e laici e il sacerdozio universale è tenuto in gran considerazione. C. Di regola il pastore non indossa la... Tutte le chiese locali sono uguali fra loro e, in linea di principio, indipendenti, anche se spesso i comitati direttivi delle chiese battiste hanno un forte potere centrale. Le decisioni delle assemblee generali devono ricevere il consenso delle comunità locali. A. La Bibbia è tenuta in altissimo onore come in tutti i gruppi fondamentalisti. La Chiesa Avventista B. La salvezza mediante la sola grazia di Cristo è di norma annunciata con sano accento evangelico. Anche le più tipiche osservanze avventiste, il sabato o la decima, non hanno mai come scopo il conseguimento. Prima viene la fede, poi l'obbedienza della fede. I credenti devono essere battezzati per immersione e dopo la professione di fede. C. Il prossimo ritorno di Cristo è il grande centro di interesse religioso degli avventisti. D. Negano risolutamente l'immortalità dell'anima. I morti dormono fino alla fine. Allora vi sarà una prima risurrezione per i credenti ai quali verrà conferita l'immortalità e una seconda risurrezione per i malvagi, i quali verranno annientati. E l'osservanza del sabato è l'altro grande fulcro della dottrina avventista e dipende in parte dal biblicismo stretto. F. La decima. Gli avventisti hanno rimesso in valore il principio ebraico della decima e restituiscono alla Chiesa il 10% di tutti i loro guadagni. G. La morale avventista è sostanzialmente puritana e comprende l'astensione dagli alcolici, da fumo, tè, caffè, droga e simili. Anche la vita politica è in genere rifiutata. Per l'evangelizzazione e la cura d'anime, la Chiesa avventista si avvale di dipartimenti, i quali promuovono varie attività nei limiti della loro competenza e del loro territorio. Associazione gioventù, libertà religiosa, opera medica, missione interna, pubblicazioni, comunicazioni, scuola del... La Chiesa pentecostale. Le chiese pentecostali non sono ancora troppo organizzate e non si richiamano a un capo o a un fondatore. Esse sono piuttosto il risultato di una vasta fermentazione religiosa prodottasi negli ambienti evangelici popolari in varie parti del mondo all'inizio di questo secolo. A. Biblicismo. Il tratto più distintivo dei pentecostali non è il troppo famoso dono delle lingue, ma il profondo biblicismo. Fondamentalismo. La Bibbia è considerata in blocco e senza sfumature come parola di Dio e interamente accettata nella lettera come nello spirito. B. Salvezza per fede. L'annuncio della salvezza operata da Cristo occupa un posto d'onore nella predicazione pentecostale. C. Battesimo d'acqua. i convertiti vengono battezzati per immersione. De il dono dello Spirito Santo. Quando un credente arriva alla fede è rigenerato, è unto dallo Spirito. E il battesimo dello Spirito. E una esperienza più profonda che segue è la salvezza, mentre alcuni la vedono come un'esperienza indispensabile per la salvezza. F. Il dono delle lingue. Esso consiste nell'emettere suoni inarticolati e incomprensibili, mentre il credente è in preda a una sorta di trasporto estatico. G. Guarigioni per fede. E un altro dei carismi della Chiesa nascente, rimesso in onore fra i pentecostali. Il pentecostalismo, come tutti i movimenti di risveglio, diffida dell'organizzazione, perciò, di norma, ogni comunità è autonoma e nomina il suo pastore, o anziano. L'ordine del culto è molto libero e varia con facilità. Poiché le varie chiese locali hanno bisogno di collaborare le une con le altre, esistono delle assemblee nazionali e una conferenza mondiale ogni 3 anni, dove si decidono le questioni comuni. Ma ogni chiesa è libera di accettare o meno le decisioni. Occorre notare che nel suo seno si sono fatte luce 2 tendenze principali, una moderata e una estremista. La tendenza moderata è divisa a sua volta in 2 ali, le Assemblee di Dio e la Chiesa Apostolica. Le Assemblee di Dio rappresentano tuttora la più importante Chiesa pentecostale, tendono ad organizzarsi in modo simile alle altre Chiese evangeliche, con pastori regolari, che compiono un apposito ciclo di studio. La Chiesa Apostolica si richiama al revival pentecostale, rimette in luce il ruolo attuale degli apostoli e dei profeti, assumendo quindi una propria fisionomia. Esse si ricollegano al tempo apostolico che segnò il sorgere delle prime comunità. Le Chiese di Cristo, la comunità, o Chiesa, o Assemblea, include tutti i credenti che hanno deciso di seguire Gesù Cristo, riconoscendolo qua. Non ci sono persone specializzate o consacrate, perché tutti sono sacerdoti in quanto partecipano al sacerdozio di Cristo. Vi è l'assenza di magisteri e di autorità. Gesù è l'unico maestro. Per tale motivo, l'unica guida in ambito morale e teologico è la testimonianza biblica, il cui centro di comprensione e interpretazione è la cristologia. Tutti i credenti dirigono la preghiera pubblica. Tutti partecipano e distribuiscono la cena del Signore, tutti possono battezzare. C. Evangelizzazione. La Chiesa ha come compito specifico di far conoscere quella parola di Gesù per cui essa stessa, chiamata da Dio, si costituisce. La Chiesa non predica se stessa, ma il Signore risorto. Le Chiese di Cristo non ammettono un centro o vertice organizzativo. Per l'ordinamento interno vi sono persone dedicate a tempo pieno o parziale alle varie attività guidate da comunità locali o da iniziative personali autonome. Ogni componente della comunità è chiamato alla militanza effettiva, perché è credente chi è partecipe della Chiesa, non chi ode le sue parole o chi si limita a frequentare le sue riunioni. Le Chiese dei Fratelli. Le Chiese dei Fratelli, con i Battisti e gli Avventisti, si differenziano dalle Chiese storiche per la dottrina, piuttosto che per le... Ma un esame più attento fa delle Chiese dei Fratelli un elemento unico e caratteristico del panorama evangelico. Principale originalità dei Fratelli è la loro concezione della Chiesa e dei ministeri. I Fratelli non riconoscono l'utilità di ministeri specializzati pastori e pensano che le riunioni di credenti debbano semplicemente essere animate ed edificate dai doni che lo Spirito distribuisce, a ciascuno in particolare, come egli vuole, 1 Cor 11:11. Nel culto non ci è quindi ordine liturgico fisso, ma ciascuno almeno in teoria parla o prega secondo l'ispirazione del momento. I membri delle assemblee conducono una vita austera, no al fumo e al cinema. In genere hanno forte riserve verso tutto ciò che è del mondo, vita politica compresa. La Bibbia in genere è letta e meditata con serietà. Tra le denominazioni storiche italiane, esse rappresentano, per così dire, l'ala puritana e rigorista, tra cui si sottolineano con forza i principi del risveglio, del biblicismo, del sacerdozio di tutti i credenti, e dell'impegno evangelistico. Ecco una critica che fa riflettere. Nelle assemblee dei fratelli sono intervenuti due fattori negativi. Il primo è il mancato ripensamento teologico sulla dottrina della santificazione, con i suoi risvolti etici, relativi al modo di vivere del credente nella società. Per santificazione intendiamo il non seguire la mentalità e gli schemi di questo mondo. Il secondo è il cristallizzarsi di un insegnamento che non sempre ha tenuto nel doveroso conto la problematica sociale del credente e della comunità. Come risultato si è avuto un indebolimento generale di quella giusta tensione a far prevalere in ogni istanza il richiamo ai valori eterni dell'Evangelo. Ne è conseguita l'accettazione della logica tipica della società consumistica, vale a dire il benessere materiale, che è la causa di un lento ma progressivo imborghesimento. Movimenti come quello dei fratelli, nonostante i loro difetti, dovrebbero essere sempre oggetto di grande attenzione, perché rappresentano per molti credenti una possibilità di manifestare la propria fede che difficilmente potrebbero trovare in altre denominazioni. La pietà calda, fatta di lettura ingenua della Bibbia, di preghiera, di testimonianza individuale, costituisce per molti una genuina espressione di fede. Anche il letteralismo biblico, così facilmente criticabile sul piano teorico, diventa in un primo momento quasi inevitabile, quando persone semplici, senza mediazioni gerarchiche o culturali, prendono di fatto in mano la Bibbia e cercano di trarne delle indicazioni per la loro vita. Questo letteralismo elementare si deteriora quando, come è accaduto nelle chiese dei fratelli, persone di mezza cultura e di grande presunzione assumono la funzione di dottori e cominciano a definire le sane dottrine, distinguendole da quelle false, mettendo in guardia i credenti contro il pericolo di scantonamenti dottrinali. Quest'azione intimidatoria ha, più volte, messo a tacere voci che avrebbero potuto aiutare la comunità a raggiungere una maggior consapevolezza teologica e una più matura posizione di fede. Molti credenti, soprattutto giovani, sarebbero aperti a ricevere un messaggio biblico più serio e impegnato, ma ne sono impediti, oltre che dalla loro tradizione, da certe autorità non costituite ma operanti di fatto nelle comunità. Conclusione. Vorrei terminare questa mia ricerca ricordando le parole di Paolo rivolte a Timoteo. Ma pure il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi, e si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome del Signore. Nessuno può giudicare una persona per ciò che riguarda la sua salvezza, solo il Signore conosce coloro che sono suoi. Ma, contemporaneamente, il Signore ha fatto sapere che, se è vero che per essere salvati non occorre appartenere ad una religione né avere un credo più o meno giusto, è però indispensabile, per chiunque afferma di credere e seguire Gesù Cristo, abbandonare ciò che Dio chiama iniquità, peccato. Il messaggio del cristianesimo si può ridurre alla sola verità, espressa da Gesù a Nicodemo: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E Paolo conferma: tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla, quello che importa è l'essere una nuova creatura. Ga 6:15. La nuova nascita è un'esperienza spirituale, la quale come risultato produce la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Ebi 14:14. Solo chi è nato di nuovo può entrare nel regno di Dio. Gv 3:3-5. Cioè nella sua Chiesa. Che tu possa essere nato di nuovo e appartenere alla Chiesa di Cristo, che professa l'unica, vera religione. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Gc 1:27. LACOSAPIEIMPORTANTENELLAVITA. Se tu che leggi mi hai seguito fin qui, significa che le cose di Dio ti interessano veramente. Per questo non ho il coraggio di apporre la parola fine prima di farti una domanda che racchiude in sé un valore eterno. Sei nato / di nuovo? Hai cioè sperimentato la conversione? Tu mi dirai che cosa significa ciò. Cosa intendi per conversione? Innanzitutto la conversione non è un miglioramento di vita che tu possa ottenere con le tue forze, poiché si tratta di una vita tutta nuova, che cambia categoricamente il tuo cuore, i tuoi pensieri, la tua esistenza e, persino, il tuo destino eterno. E questo, oggi più che mai, è per te necessario perché fai parte di un'umanità decaduta, ti trovi a vivere in uno stato che è esattamente il contrario di quello per il quale sei stato creato. Il giorno è divenuto notte, e, immerso barra A in queste tenebre oscure, tu scambi i tuoi nemici per amici ed i tuoi amici per nemici, chiami il bene, male ed il male, bene. Ti credi libero e invece sei schiavo. Ti credi buono e invece sei malvagio. Quella che secondo Dio è reputata la cosa più necessaria, a te appare come quella più inutile. Ricerchi affannosamente il tuo bene nel piacere anziché cercare il tuo piacere nel bene. Guardi a Dio come fosse un fastidioso nemico, piuttosto di accettarlo quale tuo migliore amico. Questa non è altro se non la conseguenza di una perversione interiore che corrompe il tuo giudizio, tradisce la tua volontà e ti trascina inevitabilmente verso la perdizione. La tua colpa più grande non consiste tanto nei peccati, ma nel ribellarti a Dio. Peccare non significa solo disubbidire a ciò che Dio ha detto, ma innanzitutto significa agire contro ciò che Dio è, contro il suo stesso essere. Peccare significa profanare la sua santità, violare la sua giustizia, disprezzare la sua volontà, opporsi alla sua sovranità, contrastare il suo piano, negare la sua sufficienza, sfidare la sua pazienza, beffarsi della sua onniscienza e onnipotenza, disprezzare la sua bontà, abusare del suo amore, sputare in faccia alla sua grazia. Dio ci fa sapere che, ai suoi occhi santi, il nostro peccato è come il vomito del cane, come il fango in cui si rotola il maiale, come l'infezione nelle ossa, come una cancrena, come un panno sporcato dal sangue mestruale, come la carne putrefatta di un corpo morto, come sterco. Occorre dunque, per la tua salvezza, il compimento di un'opera interiore, la nuova nascita. Essa è assolutamente essenziale, non si compra, né si eredita, e nel mondo non c'è che nulla che possa sostituirla. Tutti devono nascere di nuovo, non solo gli sventurati, ma anche le persone rispettabili. Nascere di nuovo non consiste in un atto fisico, ma in un'esperienza spirituale. La prima nascita ti fa diventare membro di una razza perduta. La seconda, membro di una razza redenta. La prima nascita ti conferisce una natura corrotta e peccaminosa, la natura che possiede qualunque uomo della razza di Adamo, mentre la nuova nascita ti dona una nuova vita, rendendoti partecipe della natura divina. Sulla base della prima tu nasci peccatore, in virtù della seconda tu nasci santo. Le due nascite sono ben separate e distinte. Solo con la nuova nascita puoi diventare figlio di Dio, perché la parola di Dio afferma: Gesù è venuto a casa sua e i suoi, gli ebrei, non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, compreso te, egli, Gesù, ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli, cioè, che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, cioè mediante genitori cristiani, né da volontà di carne, cioè mediante una capacità umana, né da volontà d'uomo, cioè mediante l'autorità di una persona religiosa, ma sono nati da Dio. La nuova nascita, cioè la salvezza, è un'opera che solo Dio può compiere, altrimenti Cristo sarebbe morto invano. La conversione è l'atto attraverso il quale tu riconosci ed accetti la tua disfatta morale e ti abbandoni totalmente a Dio per essere salvato, ti dichiari decisamente incapace di cambiare la tua natura e confidi di conseguenza in Dio affinché Lui la rigeneri. Deluso e stanco di te stesso, torni al tuo Creatore e, come un figlio perduto, fai ritorno alla casa paterna. Questo atto spezza il tuo orgoglio quando, nella disperazione più profonda, pentito, ti accorgi che solo Cristo può salvarti. Ma non si può trovare alcun sostituto al sangue di Cristo, esso è indispensabile. Non cic è alternativa, o Cristo ti salva, o sei eternamente ed irrimediabilmente perduto per l'eternità, condannato dai tuoi peccati non perdonati. Ora, a questo punto, se chiedi misericordia ed accetti che Cristo diventi l'unica risposta al problema della tua separazione da Dio, se lo invochi e lo confessi pubblicamente come tuo unico personale salvatore e padrone assoluto della tua vita, non essendo più padrone della tua volontà, ricevi all'istante il perdono totale di tutte le tue colpe. Hai la pace e la riconciliazione con Dio. Diventi così un suo figlio, perché ricevi il battesimo dello Spirito Santo e sei partecipe della sua natura. Quale egli è, tale anche tu diventi in questo mondo. Ti renderai conto allora non di ottenere la vita eterna come un dono, ma che Dio stesso ti è stato dato in dono. Tutto questo è per grazia, non per opere, perché altrimenti grazia non è più grazia. E perché nessuno possa vantarsene. Allora Cristo diventerà per te, come lo è per ogni vero cristiano, l'unica soluzione di tutti i tuoi problemi, la risposta chiave in ogni situazione, il soccorso a tutti i tuoi bisogni, la pienezza per la vita presente e per l'eternità. Pur vivendo ancora su questa terra, godrai di una gioia divina e, giustificato per fede, avrai pace con Dio, intrecciando con Lui e col suo Figlio una relazione nuova. La parola di Dio diventerà per te il cibo quotidiano e l'unica autorità e regola da seguire per esprimere la tua fede. Sarai trasformato, mediante il rinnovamento operato in te dallo Spirito Santo, amerai ciò che Dio ama e odierai ciò che Dio odia. Sentirai infine il bisogno di ricercare la comunione con nuove persone, con coloro cioè che hanno vissuto la tua stessa esperienza. Avrai il privilegio di soffrire per Cristo perché ti è stato dato non soltanto di credere, ma anche di soffrire per Lui. E non sarai più solo, perché amerai in modo nuovo tutti coloro che, come te, sono diventati figli di Dio per la fede in Cristo. Desidererai quindi la loro compagnia e la chiesa locale, nella quale ti recherai costantemente, sarà per te motivo di benedizione, di crescita, di servizio, di gioia e di paziente e istruttiva sofferenza. La tua vita sarà caratterizzata dalla santità. Ti disferai della falsità, dell'orgoglio e dell'incredulità, per rivestirti di verità, di umiltà e di fede. Rinnegherai l'odio e l'egoismo, per esprimere amore e generosità. Rigetterai l'immoralità e la sregolatezza, per vivere rettamente e sobriamente. Rinuncerai alla pigrizia, per essere operoso. Lascerai l'ignoranza, per crescere nella conoscenza. Abbandonerai l'insoddisfazione, per abbracciare la contentezza. Volterai le spalle al rancore per perdonare, rifiuterai l'ansia per accogliere la pace interiore. La salvezza di Dio per te sarà completa, reale, meravigliosa. Essa vivificherà il tuo spirito, rinnoverà la tua mente, trasformerà tutto il tuo pensiero, purificherà i tuoi desideri, ti libererà dalla paura della morte. Non guarderai più al passato nella mala nostalgia di una giovinezza che non ritorna, né al futuro con paura e ansia. Ma aspetterai il giorno in cui Gesù ritornerà per porre fine alla miseria umana e per regnare. Questa è la vita nuova. Con la mente di Cristo si ha il senso delle cose di Dio, si ama ciò che Dio ha fatto e si fa ciò che Egli ama. In definitiva, si vive come bisogna morire.